è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però... Scoppia il caso gay, caro Parenzo, scoppia il caso gay dopo le dichiarazioni ieri di Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, proprio qui alla Zanzara. Ne ha combinata un'altra, professore. Caro Buttiglione, ne ha combinata una. Escono notizie dalla Zanzara, Allora, cosa ha detto? Facciamo un il piccolo... professore, che avevo elogiato, tra l'altro. Tu l'hai elogiato professore. All'inizio, numero uno. Bravissimo, caro. Bravissimo. E c'era poi moderato, una, una boiata pazzesca sui gay. Una cosa di un omofobo impressionante. Poi insisteva, perché continuava a insistere. Comunque, perché... comunque, sentiamo. Queste tasse vengono pagate anche per i gay? Lei da dove pensa che si prendano i soldi per pagare le pensioni ai gay? La famiglia paga, investe il cuore, investe i propri risparmi, sì. Investe un mare di denaro. Sai quanto costa tirare su un ragazzo finché diventa... Sì, no, ma lo so benissimo, anche io ho una figlia, certo. E non li aiuta nessuno. Le famiglie pagano e invece ne godono tutti, anche quelli che i figli non li hanno voluti. Sulle pensioni, insomma, dice Buttiglione, i gay vanno a scrocco delle famiglie eterosessuali. Cioè, gli eterosessuali, i gay sono mantenuti per quello che riguarda la pensione. Poi il passaggio esatto non era questo, ma comunque lasciamo perdere. Però chissà come gli è venuta in testa questa roba, comunque. Vabbè, ma insomma, ognuno ha le sue idee, carità, naturalmente. Professore. Qualche giorno prima, Gobbo, sì? Gobbo, che è il sindaco di Treviso, aveva detto che si possono multare i gay, poi ha detto anche le altre coppie, però noi dei gay parlavamo. Dai, la questione era sui gay. Comunque, Gobbo. Il problema è quando c'è l'esasperazione, quando ci si mette nelle varie piazze o nei giardinetti, questo non è certo, cioè è un decoro pubblico che non va bene. Poi, cioè, nei giardinetti non ci si può baciare, due maschi non si possono baciare nei giardinetti di Treviso. Ma io credo che lei lo multerebbe, multerebbe due. Sì, ma certamente. Beh, no, come certamente. E questo era Gobbo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. E beh, caro Parenzo, c'è sempre la vicenda Libia in primo piano. Sentiamo qualche voce di Radio Padania, eh? Ah, sì, questa è bella, Radio Padania. Berlusconi si inginocchia a Parigi. Adesso viene fuori quella rossa lì con la faccia da vampiro, a parlare di colpire qua, colpire là. La possibilità adesso di Bossi di riscattarsi semplicemente rinunciando alla guerra in Libia. Io spero veramente che la Lega non partecipi all'ennesimo genocidio, veramente farei fatica a digerirlo. Ministro La Russa, non esistono bombe intelligenti. Uomini stupidi sì, ma bombe intelligenti no. Questo è peggio, viene fuori da Radio Padania. Intanto qualcuno insiste ancora sulla teoria che non sono bombardamenti. No, non bisogna sono? Chiamarli bombardamenti. Cosa sono? I tornado sparano intanto, però non sono bombardamenti. E cosa sono? Nunzia caramelle, Girolamo, sentite. Ah, Nunzia. Anche utilizzare il termine bombardamenti non è giusto. Saranno degli interventi mirati. Sulla base di quanto però ci dice la NATO. Mi scusi, no, lo dico perché sennò sembriamo Cossutta, sì, quando ci fu bene. Il Kosovo, che scoprì che gli aerei italiani bombardavano in Kosovo, credo in porta a porta, mi corregga Minniti. E le azioni mirate credo sì, siano sono bombardamenti, esatto, è chiaro, ma non sono sì, tanto per sono bombardamenti, ma qui nessuno vuole la guerra. Che abbiamo litigato. Cara De Girolamo, siamo bombardamenti oppure no? Bah. qui nessuno vuole la guerra. Nessuno vuole la guerra. Sì, quando si combatte è guerra. Cioè, quando si mandano i tornado, quando si mandano le navi, è si chiama guerra. A casa mia si chiama guerra. Però se voi la volete chiamare in un altro modo, interventi mirati. Vabbè. Allora, andiamo a sentire qualche mattana del giorno. Più di queste che abbiamo già sentito. Più di queste. Don Gallo, ieri ad Exit, il suicidio di Monicelli. Me l'hanno scritto, io non ci voglio credere finché non lo sento. Il suicidio di Monicelli è il suo ultimo gesto per scuoterci da Berlusconi. Bellissimo. Ma no, è un mondo post-cristiano. Devi rispettare l'ateo, devi rispettare laico, devi rispettare le altre religioni. Quello di Mario, finisco. Quello di Mario, secondo me, conoscendolo a fondo tanti anni, è il suo più grande film, una scelta libera per svegliare noi italiani che siamo addormentati, dove sotto un governo che non esiste, dove un governo pasticcione, dove un governo pieno di tagli, un governo veramente vuole le leggi a persona. Monicelli ha voluto dare ancora una sveglia a questi italiani. Perché non si candida? Gente, è bello che la gente applaude queste cose. Sì, eh? Io non ho capito. La gente è entusiasta. Bravo, Don Gallo, bravo. Ovazione. Le boiate pazzesche. Che relazione. Io sai che Don Gallo è molto simpatico. No, a me ma no. Che a te sta simpatico. A me molto simpatico. No. Però qui bisogna essere onesti. Che cosa c'entra il suicidio di Monicelli col governo? E questa è la realtà. Cioè, la battaglia per la eutanasia è una battaglia sacrosanta in uno stato talebano come quello del quale viviamo. Però non vedo la relazione con il governo Berlusconi, francamente. Don Gallo, su. Altra mattana, ma questo non c'è bisogno di dirlo. Beppe Grillo. E qua non si capisce se parla da comico oppure da politico. In realtà è l'apertura della campagna elettorale, o comunque la campagna elettorale in provincia di Verona, dove è presente evidentemente delle liste. Il suo 5 Stelle, il meblé. No? Il suo albergo a una stella, sì. E, senti, secondo te stava facendo una pièce teatrale, uno spettacolo, oppure parla di politica? Non esiste più il confine ormai. No, questo è vero. Lui pensa di fare la rivoluzione attraverso... Però sentila questa cosa, è interessante. Ma cosa ha detto? Senti. Sono anziani, vecchi, di 74 anni, senza capelli, senza prostata, che hanno un uccellino tutto bucherellato perché si fanno quelle micro siringhe sul prepuzio. C'è Berlusconi quando fa pipì, è come l'annaffiatoio, sporca da tutte le parti. Sono anziani di 74 anni, non possono gestire il futuro neanche di un paese come il vostro. Vabbè, che cos'era secondo te? No, spiegamelo, Parenzo. Cos'era questa follia di Grillo? Copione logoro ormai, un copione. Ma poi dice sempre logoro, le stesse cose. Sono tutti vecchi, sono morti. Testa d'asfalto, nano, la prostata. Ma dice perché non rinnova il copione? Rinnova, è un genio, no? No, non è capace, a un certo punto uno perde anche di creatività. Ma rinnovi, non è che il copione. Francesco Bionati, buonasera. Qui in carne ed ossa. Buonasera a voi. Bello come non mai. Vabbè, adesso bello. No, cioè, beh, è elegante, bello. Con un vestito, guarda che vestito. Puoi che approfittare ha. Perché siamo per radio, quindi non si vede. Inizia sempre così, lui lisciando sempre il pelo agli ospiti. Ieri c'era Buttiglione. Ma perché non è elegante? Non mi dica che hai detto bella Buttiglione. No, bello non l'ha detto. Ho detto bravo e moderato. Bravo e moderato. A un certo punto sarei uscito fuori con i gay, con le pensioni dei gay. Una cosa pazzesca. Sapete, professore, moderato, grande conoscitore del tedesco, di Kant, eh? E poi boom. Gay, le pensioni. Le pensioni dei gay sono pagate dagli eterosessuali. Lei è così. Molto elegante, Pionati. Ottimo questo vestito. È andato da Berlusconi oggi? No. No, è andato Sardelli, però. È andato Sardelli e Moffi, mi pare. Ma insomma, mi dicono che per adesso è tutto fermo. Fino a ieri lei era vice ministro allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni. Oggi tutto finito. Mi hanno comunicato che non c'è più delega alle comunicazioni. No. No, io leggo con molta allegria questi giornali che un giorno ti portano da una parte, un giorno dall'altra. Ormai sono 4 mesi che tutti i giorni, io li capisco pure da giornalista, devono riempire una pagina e devono mettere 8 persone esposte al pubblico ludibrio. Vabbè, non mi dica che è tutta colpa. Pubblico ludibrio, non è che abbiamo detto che è un affiliato alla Sacra Corona Unita, hanno detto che è un papabile. No, dice, ma infatti, no, ma va benissimo, nel senso che poi sai come siamo considerati i questuanti, i disponibili, l'anzichenecchi, i mercenari. Tutti Bocchino ha detto mercenario, risponda a Bocchino. Dovrebbe guardarsi allo specchio quando dice certe cose. Perché dice? Insomma, non mi sembra che sia una persona di specchiata moralità. In che senso? Che ha fatto Bocchino? Insomma, come dire, ha fatto un nella sua vita ha perso contro Bassolino 35-75 e ha lasciato la regione Campania invece di fare opposizione perché era scomoda. Sì. Poi ha cambiato partito, poi ogni volta che parla lui Fli perde due o tre deputati, quindi mi pare che abbia sulla coscienza ormai la morte del suo gruppo politico. Però specchiata moralità che c'entra, che ha fatto? No, moralità politica intendo. Politica, è stato eletto con i voti di Berlusconi, oggi lo attacca tutti i giorni, insomma, pare che... Dunque non può dire mercenario a lei, insomma. Proprio no. Mercenario, una brutta parola, mercenario. In alcuni casi può anche essere giustificata, però nel nostro, nel mio in particolare, proprio no. Senta, ma insomma, questo rimpasto non se ne parla più. Abbiamo fatto un bel documento oggi, mi permetto di definirlo così per rubare. Sì, no, leggiamolo tutto il documento. No, leggiamolo tutto. In cui noi abbiamo detto: il rimpasto non è una priorità né per noi né per gli italiani. Ho capito, però non è che ci potete prendere in giro. Fino all'altro giorno voi giustamente rivendicavate un posto nel governo. Sì, perché... però fino all'altro giorno c'era una situazione, diciamo l'altro giorno, fino a una settimana, 10 giorni fa, c'era una situazione più tranquilla. Oggi siamo in presenza di una situazione di tensione fra il PDL e la Lega sulla politica. E non c'è dubbio. È una situazione economica. Con chi sta? Con Berlusconi o con la Lega? Io penso che la Lega non abbia tutti i torti, però... colpo di scena. Non ha tutti i torti. Non mi dica da una parte e dall'altra. No, mi spiego. Io sono sempre contrario, ho sentito venendo che tu giustamente dici quando cade una bomba è un bombardamento, quindi non è che uno può dire un'azione mirata. Come Dunque siamo in guerra. A me i bombardamenti non piacciono, specie quando sono stati iniziati dalla Francia per ammazzare la famiglia Gheddafi, quindi c'era una deviazione rispetto all'iniziale mandato ONU. Poi abbiamo rimesso le cose in riga e quindi a questo punto Berlusconi si sta muovendo bene nella linea dettata dall'ONU. Tra l'altro le parole del capo dello Stato, mi sembra un'autorità... Se ha ragione la Lega, non può avere ragione No, voglio dire, a nessuno piace bombardare e fare la guerra. D'accordo. Se però il mandato ONU ti dice che in determinate condizioni e insieme agli alleati quelle azioni difensive per evitare stragi di civili si possono fare, tu hai accettato una missione e non la puoi accettare a metà. Quindi irresponsabili leghisti allora in questa fase? Sì, irresponsabili. Hanno forzato, nel senso che loro secondo me giocano su un senso di pacifismo che noi italiani abbiamo innato. Però in alcuni casi, come ha detto il capo dello Stato, se stai in una missione internazionale devi andare stare. Non è che puoi dire io lancio caramelle e voi bombe. Quindi sono irresponsabili in questa fase? Tengono una posizione, secondo me, per il loro elettorato in campagna amministrativa. Sì, la tengono un po' troppo marcata, ma credo che martedì mentre voi siete responsabili rientreranno. Loro sono irresponsabili. Noi siamo responsabili e loro? E loro sono scarsamente responsabili in questa fase. Ecco, perché è così democristiano? Cioè scarsamente, scarsamente responsabili. Allora, posso baciare Dionati? Ma perché devi baciare Dionati? Perché è democristiano? No, tu devi baciare Dionati per un motivo. No, perché lo adoro. No, per una questione di... A parte che è troppo simpatico. Eterosessuale fino a prova contraria. Beh, questo perché devi dire sì. Ma non ho nessun pregiudizio. A differenza di Buttiglione non ho nessun pregiudizio verso i gay. Cioè, per esempio, a lei il manifesto dell'IKEA non dà fastidio? Assolutamente no. Tanto la società è così. Una cosa è essere credente, una cosa essere bigotti. Cioè non è, ne si sente un peso sentendo quello. Chi è che ha il cellulare acceso qui? Chi è che ha il cellulare acceso? È Berlusconi? No, poteva essere Berlusconi. Se c'è Sardelli, forse no, ma risponda, faccia tutto in diretta tranquillamente. Chi è? No, prego, risponda. Chi è? Non lo so chi è, perché c'è un numero senza di... Rispondiamo noi se vuole. Lo spegniamo. Ma come? Poteva essere Sardelli con qualche novità. Sardelli, insomma, come dire. Non conta nulla, no? No, conta, ma insomma lo posso vedere tra mezz'ora, non è che c'è una necessità impellente. Vabbè, traffico, di torniamo Sardelli. Subito, poi ci rivelerà quando si farà però sto rimpasto, perché prima o poi sto rimpasto verrà. È l'inno, ci vuole l'inno. Le mani di Berlusconi, come è sempre stato. Capito, quello è sempre stato la così. Cosa simpatica, sai qual è? Che noi veniamo accusati di essere mercenari, quando è 4 mesi e mezzo che stiamo lì al chiodo a votare Berlusconi senza ottenere nulla. Se nella nostra condizione ci fosse stato Bocchino, cioè Bocchino faceva un'alleanza di governo con Berlusconi il 14 dicembre, il 16 dicembre avrebbe avuto 3 ministeri, 7 sottosegretariati e dobbiamo sentirci la morale da quelli... E questo perché? Di chi è la colpa del fatto che questa che noi cosa siamo, non è... che siamo brave persone e non abbiamo trattato nulla prima, perché lì c'era un'emergenza, salvare il governo, e non siamo andati lì a dire ci dai cioè questo. Vi sentite un po' questi ritardi, è vero che c'è la ci situazione sentiamo adesso, inesperti, ci sentiamo poco inesperti, no nel senso cioè Berlusconi è un ingrato, lei sta dicendo non è un ingrato, no. Assolutamente Berlusconi cioè, chi è che ostacola Berlusconi? Siamo ecco, sembrerà è l'opposto delle immagini che ci hanno costruito, ma noi siamo direi il termine giusto, i disinteressati, non i responsabili. Disinteressati. Se no non avremmo retto 4 mesi con la stampa che ci spara addosso e con nulla che arriva. Se fossimo stati lì per ragioni di potere, è chiaro che non avremmo potuto reggere 4 mesi, avremmo trattato prima. Il problema però forse più avanti è che ci sono un po', ci sono anche altri pretendenti, forse è quello il problema, però torniamo subito dopo il tempo. Ma Berlusconi è stato chiaro. Alleanza di centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara da Roma, 800 24 00 24, con noi Francesco Pionati del gruppo dei responsabili, ma come sentite dall'inno è il presidente, segretario, sì, non so che cosa, Alleanza di Centro, 23 liste in Italia in corsa per le elezioni del 15 e 16 maggio. In molte da città, Milano a Reggio Calabria. Hai capito? In tutta Italia. Allora, tutta Pionati, Italia. Quando si farà però? Ci dia una data oltre la quale voi non potete più aspettare. Il ultimatum a 32 dicembre. Come il 32? Appunto. L'altro giorno Sardelli, quando è venuto ai nostri microfoni, ha detto: in realtà sì, Pionati, c'è questa storia del viceministro allo sviluppo, però potrebbe avere anche un altro incarico nella RAI, forse, eccetera. No, per carità. In RAI ce l'ho, il vice direttore, quando smetto i panni politici torno a fare quello che facevo, ma certo non grazie ai responsabili. Ma lei lo vuole fare il viceministro o no? Alla fine? Innanzitutto sto termine di viceministro non so dove sta, sì, sono tutti sottosegretari. Sarebbe una cosa simpatica, interessante, un'esperienza, perché io sono lo farebbe, insomma. Sì, invece sarei ipocrita a dire di no, però con la stessa sincerità vi prego di credermi, se fosse stato quello il mio obiettivo lo sarei già, perché io quando sono uscito nel 2008, non a dicembre 2010, sì, sì, 2008 dall'UDC, e sono andato a parlare con Berlusconi per dire: io voglio far parte di questa maggioranza, non mi trovo con un partito ballerino, eccetera, lui mi ha detto: entra nel PDL che ti do un incarico al mio fianco, sostanzialmente avrei avuto un incarico di governo. Io dissi di no perché credevo in quello che sto facendo, cioè nella costruzione di una piccola forza moderata però autonoma rispetto al PDL, che è un poco come la Pangea dell'antichità, cioè un grandissimo la Pangea, cioè il grande continente unico nel quale però non si capisce granché. Questa indistinta, no? Questa massa da cui c'è la tettonica, è proprio come la Pangea, cioè si sa, i geologi sanno che si spaccherà e si dividerà in vari continenti, però non si capisce non si sa quando succederà. Oggi, a proposito di Rai, c'è il giorno dell'uscita di Masi, ufficiale dell'uscita di Masi. Le dispiace un po'. È stato il peggiore direttore generale della storia della Rai? Si dice sempre così, dell'ultimo, non credo, non credo. Il problema è che Masi, mi permetto di difenderlo, anche se lui è entrato in Rai quando io ne ero già uscito, quindi non abbiamo nessun rapporto, diciamo, di carattere professionale. È capitato in uno dei periodi peggiori della storia d'Italia, sicuramente. La Rai è lo specchio del paese e subisce tutti i contraccolpi delle, diciamo, vicende politiche. Ora, voi sapete meglio di me che cosa è successo in questi ultimi anni a livello politico, per cui la Rai è come lo tsunami, l'onda comincia a questo sempre metro, così, però qualche telefonata, qualche Santoro, sgrammaticatura, se la poteva risparmiare o no? Ma io penso che perché farsi crocifiggere in diretta da Santoro? Io penso che le cose o si fanno o non si fanno, la telefonata non risolve, cioè se hai la forza di fermare Santoro lo fermi, se no con la telefonata non è che ti salvi la coscienza. Ed è questo il punto? Cioè lui non ha avuto la forza di fermare Santoro, era questo il suo mandato? Non poteva farlo perché comunque... Ma era il suo mandato? No. Era nel suo mandato? No, non era nel suo mandato, per questo non l'ha potuto fare, perché non era nel suo mandato e non gli si poteva chiedere, perché la Rai... Qualcuno dice che lui per esempio va via perché Berlusconi... Come se stamattina io non ho votato perché avevo mia figlia poco bene a casa e hanno detto che non ho votato per manifestare la mia protesta nei confronti di Berlusconi. Uno legge le cose come vuole, però in realtà anche lì qualche sospetto uno poteva averlo indubbiamente, ma no? Sì, però sai, quando c'è la maggioranza ormai è solida, io l'ho detto dall'inizio, il problema dei numeri in Parlamento non c'è più e fortunatamente non c'è più perché la maggioranza è solida ed è cresciuta. Quindi e qual è il problema adesso? Il problema è di fargli fare qualcosa di politicamente serio, non è che i numeri da soli non bastano in politica. I numeri sono importanti, ma servono a fare cose, se no succede come nel Nord Africa che prima o poi... Cioè nella disfida che c'è stata tra Masi e Santoro, lei con chi sta? Guarda, a me Santoro non piace, onestamente è un giornalismo che io non farei, perché è un giornalismo fazioso, però... Però è un talento, però è un talento. Lo sa fare. C'è poco da fare, il lavoro suo lo sa fare, tiene la posizione, è anche molto provocatorio nei modi, quindi alla fine uno Santoro lo sa. Resta uno, ma si va lo sa. È sì, la ma Santoro resta perché Santoro fa parte di un servizio pubblico che prevede anche Santoro, cioè l'equilibrio della Rai è così perché va visto nel complesso. Nessuno, io ricordo quando ero giornalista vice direttore del TG1, c'erano sempre le storie per cui venivamo chiamati in vigilanza a dire: perché avete fatto 30 secondi di questo, 15 di quello e 15 di quell'altro? Noi dicevamo che andava valutato e andava monitorata una settimana di telegiornale, non potevi sulla singola giornata pretendere lo stesso tempo per tutti, perché fisicamente non era possibile. E lo stesso per Santoro, la Rai va vista nel complesso, cioè tutti i programmi di approfondimento dall'1, 2 e 3 ci mettono insieme. Senta Pionati, torniamo alla questione del rimpasto, ma davvero non c'è una scadenza, non vi siete lasciati con Berlusconi con una scadenza, cioè, tutto dipende da cosa, dal voto di martedì, dopo il voto di martedì. Ma dipende dal fatto che ci vuole meno tensione per fare queste cose, ci vuole meno tensione in aula, fuori dall'aula, insistere su queste cose con un clima ancora, diciamo, non chiarito fra Lega e PDL è come... Ma che c'è? Io sto, guarda, da uomo della strada, le faccio una domanda che le farebbe mia suocera. Cioè, quali sono l'ostacolo principale? Che ci sono troppi pretendenti per i posti che ci sono, è anche questo? L'ostacolo principale potrebbe anche essere quello, questo, potrebbe, diciamo la verità. No, potrebbe, per esempio, c'è una cosa che a noi responsabili non piace, è il fatto che sono stati, ovviamente, dai giornali, quindi non abbiamo nessuna notizia di orientamento del Presidente del Consiglio, lo ripeto, lo sottolineo, sono stati indicati come sottosegretari alcuni amici, colleghi che il 14 dicembre hanno votato contro Berlusconi, quindi che hanno tentato, come io dico, il regicidio. E per esempio c'è la Lib Dem, la Melchiorre. Sì. È chiaro che, insomma, rispetto a chi, quella era una partita che non era affatto scontata come esito. Sì. Cioè là si giocava, e non si giocava su un provvedimento, si giocava la vita o la morte di Berlusconi. Cioè, voi dite, quelli che hanno votato... Quelli che hanno cercato di decapitare contro Berlusconi il 14 dicembre non dovrebbero avere posti di governo. Secondo me non è tanto, insomma, non è accettabile che... Perché sono responsabili dell'ultima ora quelli, sostanzialmente. No, non è un problema di ultima ora, è che la loro intenzione era di colpire a morte Berlusconi. Quindi non possono essere premiati. E quindi mi pare, insomma, un po'. E invece anche nel PDL qualche PDL ci sono tante validissime persone. No, appunto, c'è qualcuno che evidentemente vuole che queste cose punta su qualche posto. Sì, potrebbe... però Berlusconi su questo è stato chiaro, poiché lui, parallelamente a questo rimpasto che ha aperto, farà una proposta di ampliamento del governo con altri posti. Lui ha già detto che le tappe sono due: si chiude il capitolo responsabili quando sarà, e poi col disegno di legge per ampliare il numero dei sottosegretari si dà corpo. Allora, benissimo, cioè prima i responsabili e poi il resto. Questa è la vostra PDL. Posizione. No, è quella di Berlusconi. L'ha dichiarata oggi. Allora, perché non lo fa? È perché non c'è fretta, cioè non... Come non c'è fretta? Sì che non c'è fretta, sennò siamo tranquilli. Cioè, possiamo fare a meno dei responsabili al governo? Assolutamente sì. Si può fare a meno dei responsabili al governo? E fino ad oggi si è fatto a meno, l'importante è che siamo in aula e che votiamo, quindi non siamo una siamo utili ma non necessari. Come Senta, tutti. Ma, come tutti. Ma lei crede al fatto che Tremonti sia lì a sobillare la Lega come scrive il giornale? È stato un attacco pesante, io onestamente non lo credo e non lo condivido, perché se si è convinti di quello, insomma, si mina la radice, lo spirito di coesione di una maggioranza. Cioè, lei pensa davvero che Tremonti sia lì dietro i mal di pancia della Lega? Ci sia Tremonti? Non lo credo assolutamente, non è possibile. Dunque il giornale scrive stupidaggini? Il giornale fa insomma, degli attacchi, degli affondi che anche in passato hanno creato un po' di tensioni. Ma il giornale crea problemi a Berlusconi? Mi pare che è stato detto da qualcuno. Ma no, lei che ne pensa? Il giornale crea problemi a Berlusconi? Sì, scusatemi, ma di chi è il giornale? Perché forse ho perso qualche passaggio. Presidente, però è la prova. No, perso... Cioè, il duo Sallusti Santanchè è autonomo? Agisce autonomamente? Penso sicuramente. E fa danni a Berlusconi? Penso sicuramente. Beh, insomma, l'attacco di oggi è stato stigmatizzato, anche stamattina ieri ospite di una trasmissione, è stato stigmatizzato, è un attacco molto pesante. Fa danni a Berlusconi. Molto pesante, quindi, insomma, perlomeno oggi Berlusconi, ho visto che ha dovuto dichiarare nessun problema con Tremonti, andiamo d'amore e d'accordo. Se non ci fosse stato quell'attacco del giornale, non ci sarebbe stato bisogno della risposta. Grazie Pionati, grazie. Grazie a voi, grazie, di cuore. Buona serata. Dove va? Vado a si può dire a sostenere la mia lista a terra. Alleanza di Centro per l'Italia. Alleanza di Centro per l'Italia. Per quelli che hanno voglia di cambiare. Presenti qui con la Zanzara, alle 19:17, con David Parenzo al mio fianco, altri ospiti che verranno e soprattutto i vostri interventi. Vi ricordo il numero, lo dico in maniera così pacata, tranquilla, serena, 800 24 00 24. Ti ho defenestrato definitivamente dall'annuncio del TG3. Sentite che cosa deve dire? La Polanco. Sentite. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer. E ascoltate cosa deve dire. Stamani i primi bombardamenti italiani sulla Libia, si allarga la frattura con la Lega, Calderoli andiamo di male in peggio. Il 3 maggio il dibattito in aula, l'opposizione chiede il voto ma per il PDL non ce n'è bisogno, la missione non cambia natura, Berlusconi da Napolitano. L'Europa boccia l'Italia, il carcere per i clandestini è contro le norme, Maroni censurano solo noi, l'opposizione ennesima figuraccia. Sondaggio del TG3 sulle principali sfide delle prossime amministrative, da Milano a Napoli partite ancora aperte. A Marrakech un'esplosione in un caffè del centro ha ucciso 16 persone, fra cui 15 europei. Per il governo è stato un attentato, forse l'atto di un kamikaze. Il sud degli Stati Uniti è devastato da un'eccezionale ondata di tornado, almeno 250 le vittime, Obama proclama lo stato di catastrofe. Atteso 1 milione di pellegrini per la beatificazione di Papa Wojtyła, Roma si prepara, punti informativi, gadget e San Pietro blindata. Beh, quando c'era lui, caro lei, era un'altra cosa. Accese pien d'audacia valenò, ed in cuore il riso sulla bocca. Beh, quando c'era lui, caro lei, era un'altra cosa. Beh, era un Mario Borghezio particolarmente mussoliniano ieri sera alla Zanzara, lo ricorderete, lo vogliamo ricordare riascoltando alcuni passaggi direi fenomenali, se non fossero chiave, leggermente se non fossero leggermente sì, come dire, nostalgici, no? Come dice, no, non vorremmo mai essere incriminati poi per... Berlusconi sembra il duce, senti. Berlusconi in maniera simpatica molte volte sa un po' la maglia nera, un po' il saluto, un po' il coso, un po' l'atteggiamento, diciamo così, diciamo volitivo, ecco, gli manca però il mento. Io preferisco l'originale, perché intanto è stato un grande padano, questo, parliamoci chiaro, non è che è nato in provincia di Agrigento, ecco. È nato a Predappio, è stato un grande padano, poi purtroppo ha commesso degli errori, però resta un grande padano, non è che possiamo cancellarlo. No, però anche Berlusconi è padano, le vorrei far notare, forse più di... Sì, no, ma io ho detto grande. Con lui Gheddafi, sempre lui, non si sarebbe fatto baciare l'anello. Quando c'era lui, caro lei, era un'altra cosa. Comunque, questo senza fare del nostalgismo, sia chiaro. Però, certamente un Gheddafi non si sarebbe permesso di farsi baciare l'anello. Si sarebbe preso un calcio in culo che se lo ricordava per tutta la vita. Ecco, democraticamente si capisce. Si capisce, democraticamente. Si capisce, senza fare del nostalgismo. Però, caro lei, però... Però c'è anche un'altra storia, questa fissazione per la Padania. Dice Borghezio, la Padania non avrebbe i problemi. Ma basta con questa storia. Dei clandestini, la Libia. Ho capito, però il paese è uno, è unito. Vabbè, sentiamo, la Padania non avrebbe questi problemi. Se ci fosse la Padania libera e autodeterminata, questi toni di comando non sarebbero stati usati. E poi, a differenza dell'Italia, la Padania non ha confini nel Mediterraneo. Lì casca l'asino e casca anche il Berlusca, capisce? Poi dice Berlusconi un'imitazione grottesca di Mussolini, quando c'era lui, caro eccetera, lei, eccetera. E va bene, e poi anche una cosa su Obama. Berlusconi sarà stato chiamato dal non bianco, dice. La linea della Lega è coerente, è fuori dalle balle. Quindi, quello d'accordo, ma fuori dalle balle chi? Berlusconi? È inutile che cerchino di sbarcare a milioni, non li vogliamo. Ok, da questo d'accordo, ma Berlusconi è pure... La linea chiara, semplice e moderata. Moderata, certo. Moderata. No, voglio dire, Borghezio, però c'è anche la linea fuori dalle balle anche Berlusconi, allora. No, non necessariamente. L'importante è che il Presidente del Consiglio tenga la barra dritta. E la barra ho dritta... capito, ma chi ha autorizzato i bombardamenti? Ma queste, sa, sono cose che magari ha chiamato quello là, il non... Chi? Il non bianco, là, le direttive del potere mondiale sono queste. Il non bianco. Le direttive del potere mondiale. Vabbè. C'è anche Bersani che utilizza, a proposito della Lega, una metafora un po' sessuale. La spada della Lega si ammoscia a Roma. Bersani. Quando sono qui a Roma la spada si ammoscia un po'. Ma il giorno dopo riprende vigore a Radio Padania, sulla Padania. Allora, tutti i giochi in commedia non si possono fare. Non è obbligatorio essere un partito di governo, non lo ordina il dottore. Uno può riposarsi e stare a via Bellerio. Se pretende di essere un partito... Eh sì, insomma, la spada della Lega che si ammoscia, anche su quei manifesti, su quella campagna elettorale del Partito Democratico c'è stata qualche polemica, no? Certo. Una brutta campagna elettorale, ha detto qualcuno, con quella spada che si ammoscia, i riferimenti... Riferimenti quasi, no? Sì, ma perché controcanto sessuale. Cioè, non ho capito perché i leghisti possono fare, come dire, manifesti con l'indiano, con la riserva. Sono manifesti. È propaganda. Si chiama propaganda. A proposito di cose sessuali, Berlusconi e il pisello tutto bucato. E chi ha detto questo? È Grillo. Voglio farlo risentire. Posso far risentire Grillo? Certo, per carità, certo. Sono anziani, vecchi, di 74 anni, senza capelli, senza prostata, che hanno un uccellino tutto bucherellato perché si fanno quelle micro siringhe sul prepuzio. Cioè Berlusconi quando fa pipì è come l'annaffiatoio, sporca da tutte le parti. Sono anziani di 74 anni, non possono gestire il futuro neanche di un paese come il vostro. Eccoci di nuovo, 19:24, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Chi non lo sopporto più Grillo. Chi? Non lo sopporto più Beppe Grillo. Ma tu, io da tempo non lo sopporto. Tu ti sei fatto illudere da Grillo? No, ma mai fatto illudere da Grillo. Beh, mai. Ha fatto la prefazione di un tuo libro. Ha fatto la prefazione di un tuo ma libro. Cosa c'entra? Certo. Ha fatto per vendere, l'hai fatto per vendere, diciamo. Ma non so, io ho scritto un libro sull'economia e le ti gli sei è piaciuto fatto e ha fatto la prefazione da Grillo. Ma il retire mai? Ma che dici? Ma se ha fatto la prefazione di un tuo libro. Non è un criminale, come si può aderire a una parte. Vabbè, ho commesso un errore a farmi fare la prefazione di Grillo. Non ho commesso nessun errore, anzi, bene e viva la prefazione di Grillo, mi ha fatto vendere un sacco di copie. Ma posso ora non essere d'accordo su sto movimento a 5 Stelle, su quello che dice? Sì, vabbè, comunque stiamo può qui a parlare di Grillo. Va bene, Marco dalla provincia di Venezia, buonasera. Chi è Marco? È un ascoltatore. Ah. Dottor Cuzzani, buonasera. Un ascoltatore sì, o no? Sì, per carità. Dica. Guardi, io la chiamo per l'intervento appunto di Grillo che avete fatto risentire, l'ho sentito prima all'inizio della trasmissione. Guardi, io le dico la sincera verità, sono un elettore di centrodestra deluso e mi dispiace. Di centrodestra? Di centrodestra, sì, sì. Di centrodestra, sì. E sono una partita IVA tartassata, iper tartassata dalle tasse, sì. Io sono veneto, appunto sono di Mestre, e a me dispiace, mi dispiace molto, moltissimo quando voi liquidate con qualunquismo le cose che dice Grillo, ma non perché le dice Grillo. Beh, scusi, il pisello bucato di Berlusconi e la pipì di Berlusconi, non so fatta come, secondo lei è un ragionamento che ha un qualche senso? No, ma quello fa parte dello spettacolo perché lui è un uomo spettacolo. Io vado nei contenuti che dice Grillo. I contenuti. Vado direttamente alla ma in questo caso non ci sono contenuti, ha capito? Si parla della prostata di Berlusconi, di questo parlava in un comizio elettorale. Sono due cose diverse. C'è un comizio elettorale per la presentazione del Movimento 5 Stelle in provincia di Verona, quello era. Sì. E sì, Grillo. Sì, sì, ho seguito assolutamente. Vabbè, insomma, non è grave poi, lo facciamo anche per ridere, per scherzare. Certo. Però quello parte è dello spettacolo. Io le dico sinceramente che quando vedo i politici oggi, e credo di essere in buona compagnia, i politici, tutti i politici, indistintamente. Tutti indistintamente, mi dia del qualunquismo e del qualunquismo mi può anche liquidare. Lei vede tutti i politici fare cosa? Io penso solo ed esclusivamente ai soldi che prendono. Ma perché c'entra i soldi che prendono? Scusi, Marco, questa qua è veramente la cosa, una cosa assurda. Possiamo naturalmente ragionare sui costi della politica, quante persone vivono di politica oggi in Italia, probabilmente troppi, ma non è che adesso il problema dell'Italia sia lo stipendio dei deputati o dei senatori, cioè, non è quello il punto. Poi possiamo discutere in generale dei costi della politica. Scusi Marco, si vota nel comune dove lei vive? No, a Venezia no. Comunque lei è stato un elettore del centrodestra nel 2008? Io sì, assolutamente. E lei non voterebbe più il centrodestra? No, io sono orientato a votare Grillo, le dico la sincera verità, ma lei passa, diciamo, da Berlusconi a Grillo. Lei passa da Berlusconi. Lo vuole chiamare voto, c'è una certa continuità comica. C'è una continuità comica, diciamo. Comunque. Dice Parenzo che c'è una continuità comica, infatti. Sì. Berlusconi è più simpatico. Guardi, io le dico la sincera verità, io sono estremamente, come è un po' la terra mia, pragmatico. Pragmatico. Beh, insomma, passare semplicemente siccome è pragmatico, passa da Berlusconi a Grillo. No, va benissimo, per carità. Non c'è problema. A chi devo? No, ma infatti ognuno è libero di votare. Senatore La Torre, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Nicola La Torre del Partito Democratico, tra Grillo e Berlusconi c'è qualche punto di contatto secondo lei? Sì, mi pare che hanno interpretato tutti e due la politica come uno spettacolo e invece, ahimè, la cosa è un po' più complicata. Chi è più bravo nello spettacolo, secondo lei? Ma guardi, cioè, secondo me è più bravo Grillo nello spettacolo, perché ormai Berlusconi è la caricatura di se stesso e quindi la cosa sta diventando È troppo ripetitivo Berlusconi. Sì, ma non c'è per esempio una barzelletta che le piace, che le fa venire il sorriso, non c'è di queste ultime che ha sentito, ce n'è una che le ha strappato un sorriso? No, nemmeno una. Non fanno ridere secondo lei? Ma io non le ho ascoltate tutte, ho ascoltato solo quelle che hanno fatto notizia e non mi hanno fatto ridere. Quelle del 25% di omosessualità che c'è in ognuno di noi e invece è la parte... Non è una barzelletta, è un'altra di quelle battute grevi alle quali è abituato Berlusconi. Quella è un po' meno greve delle altre. Rispetto a quella della mela, ad esempio. Comunque non sono un esperto di barzelletta di Berlusconi, no. Non l'abbiamo invitata qui per discutere delle barzellette. Torre per discutere le bazzette. No, che c'è? Massimo da Palermo, eccoci. Massimo, mi sente? Non la sento. Francesca da Roma? Eccola. Bene, dica. Sì, buonasera. Sentiamo molto poco, allora ce ne andiamo tranquillamente, poi riprendiamo il collegamento con lei e con gli altri, ce ne andiamo tranquillamente a sentire le ultime sulla borsa, 800 24 00 24. Cosa sta dicendo la signora Berlinguer sul TG3? Non lo so, mandi la borsa. Radicalmente, la monarchia. Sentiamo Emanuele Rabito. Ah, la questione della monarchia, Londra, il matrimonio. Beh, questa è importante questa, eh? A me non me ne frega assolutamente nulla. A domani. Sì, a dopo. Domani matrimonio. Beh, insomma, questo rimpasto alla fine non si fa per il momento, come ci ha detto prima Pionati, loro aspettano, continuano a essere responsabili, anche se c'è chi si stressa, per esempio la signora Polidori. Katia Polidori. Lo ricordi, no? Polidori è molto arrabbiata con noi, lo sai? Arrabbiata? Ah, per la vicenda del CEPU. Sì, perché l'abbiamo un po' punzecchiata una volta che è venuta ospite a noi sul CEPU, sulla parentela, no, eccetera, risponde eccetera, più al telefono. È offesa, dice non voglio più venire, siete troppo cattivi, eccetera, eccetera. Vabbè, chiediamo scusa, signora Polidori. No, ma non chiediamo scusa, però facciamo un appello alla però signora Polidori. Facciamo un appello alla signora Polidori, che non c'è nessun problema, cioè non siamo qui, non mangiamo nessuno. Comunque lei è stressata per quelli che attendono la nomina. Sentiamo. C'è lo stress personale, deriva dal fatto che da tanti mesi ci sono una serie di nomi che girano sui giornali e questo di certo non fa bene ovviamente alla persona che rientra sul territorio e deve confrontarsi tutte le volte con questo tipo di proposte. Beh, poi questa cosa che uno rientra nel territorio e si deve confrontare col fatto che gli elettori chiedono ma sto posto ce l'hai o non ce l'hai, e da qui lo stress della Polidori. Sul territorio c'è sempre questa cosa del territorio, come se uno va nel territorio e intorno poi si radunano delle persone che chiedono conto, ma sai perché lei non è diventata... È così, la torre succede così? Come quando lei succede va così territorio. Nel territorio? Il territorio non gliene frega proprio niente di questo. Il territorio è interessato ai propri problemi e chiede spesso a noi, ahimè, cosa stiamo facendo per aiutarli a risolvere i problemi. E temo che l'onorevole Polidori non sa che rispondere. Non sa perché non sa di cosa parla? No, per l'amor di Dio. Perché evidentemente lì l'unica ragione politica che ispira questi responsabili non mi pare che è quella di rispondere alle esigenze del territorio. Ecco, perché non si fa sto famoso benedetto rimpasto? Cioè lei lo vede dall'esterno, secondo lei perché non si fa? Ci sono troppi pretendenti, c'è adesso il problema dei rapporti tra Lega e Berlusconi, qual è il punto? La cosa mi pare abbastanza chiara è che non esiste più una maggioranza politica in grado di governare il paese. C'è soltanto una maggioranza numerica che quotidianamente deve essere alimentata da attese, dalla speranza di poter ricevere un posto, perché se lo dai a uno ce ne sono cinque che si arrabbiano. E quindi si cerca di tenere insieme la baracca con queste aspettative, con queste speranze alimentate da colloqui privati, da promesse pubbliche, da stop and go. Il tutto però mi pare abbastanza chiaro a conferma che non c'è una maggioranza politica in grado di governare il paese. Tra l'altro in queste ore stiamo assistendo anche in queste ore? Ma questa polemica così violenta tra Lega, sui temi della Libia. Politica estera, però io sono sicuro che martedì tutto rientrerà alla fine, quando si va a votare non è che la Lega potrà votare contro la Libia o contro l'intervento anche Libia. Perché si troverà una quadra, voi, no? Io devo essere sincero, Lei non si aspetta una crisi sulla Libia, diciamo la verità. Ma la cosa che intanto mi colpisce una cosa, che si sta parlando in questi giorni di questioni che riguardano guerre, bombardamenti, morti, con linguaggi di una superficialità e anche con un uso funzionale a logiche di politica interna, di propaganda elettorale. Ecco, per esempio, per lei che cosa si sta facendo? Si stanno sparando dei razzi di precisione o si bombarda? Perché sembra che al governo non lo vogliano dire bombardamento. Si bombarda e c'è la guerra, diciamo la verità. Francamente non vedo questa grande differenza tra razzi di precisione e bombardamenti. Diciamo così, il sunto può essere bombardamenti di precisione, ma insomma la sostanza non cambia. Bene, 800 24 00 24. Dobbiamo sentire però anche il signor Sardelli, adesso, perché il nuovo mantra dei responsabili è questo, l'abbiamo sentito anche prima da Pionati: nessuno di noi nel governo. C'è Scilipoti che ha detto chiaramente che si sfila. C'è Pionati che dice che lui accetta. Alla fine tocca a lei. Grazie, non bevo, non gioco a calcio. Allora voglio dire, se non te del Gino Buono Pugliese. Anche Galeano si sfila. Quindi probabilmente avremo bisogno di qualcuno che viene da fuori a darci un sostegno per mandare qualcuno a governo. Va bene, questa è la situazione. Dove andiamo? C'è anche uno Scilipoti che dice: i responsabili sono per la pace. Sai che io sono uno dei massimi esperti dei responsabili. Tu sei, devi fare una biografia dei responsabili. Farò un libro, I responsabili. Raccontati da Cruciani. E tu conosci tutto di questi tutto, responsabili. Ogni singola parola, li seguo d'appresso, come si dice. Che ha detto Che i responsabili sono per la pace, che non si capisce cosa vuol dire. Comunque, i responsabili sono per la pace. Bossi non cerca la crisi come non la cercano il gruppo di iniziativa responsabili, ma siamo per fare una riflessione attenta. Noi siamo per la pace e vorremmo evitare ad ogni costo le guerre. Questa è una riflessione che noi cerchiamo di portare avanti, ma con la grande responsabilità e capendo la situazione e il momento preciso. Hai capito qualcosa? Il nulla, il vuoto pneumatico. Riflessione attenta. Io vado ai matti quando sento la riflessione attenta. Siamo per la pace, eccetera, eccetera. Va bene. Dopodiché esci di pochi. Va bene, esci di pochi. Non è il generale Jean, no? No, cioè, a parlare di guerra ci deve essere una commissione estera, chi ha sempre seguito. Non è che uno che si occupa di olistica adesso deve spiegarci anche la strategia di guerra. Il deputato si può occupare anche di altre cose. Sì, ma per carità, però è tutto finito. Col signor Massimo da Palermo. Massimo, buonasera. Massimo? Non risponde più questo Massimo. Perché a Palermo c'è un problema. Nicolò da Genova. Buongiorno. Sì, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, la sentiamo, dica. Allora, io volevo dire due parole su quello che ha detto ieri sera Buttiglione. Ah sì, la questione della pensione degli omosessuali, sì, molto interessante. Esatto, a Genova noi diremo che ha detto una bedinata. Sì, una boiata. Non so se conoscete il termine. No, io sono molto più drastico, una boiata. È una cazzata. Ma non è nuovo, non è nuovo a queste cose, Buttiglione. Ieri sei uscito con una cosa molto bizzarra, perché io all'inizio non l'avevo nemmeno capita questa cosa qui. Cioè, ha detto che le pensioni... La torre ci guarda basito. Lei l'ha letto oggi sui giornali qualche cosa? No. C'è stata questa polemica. Ieri Buttiglione ha detto, le pensioni, era la questione dell'IKEA, no? La polemica sul manifesto dell'IKEA. Sì, sì. Ha detto, beh, poi queste non un sono famiglie. Un manifesto assolutamente indovinato. Beh sì, anche secondo me. Infatti, tant'è che se ne parla. E allora... Ancora di più, io mi fornirò da IKEA dopo questo manifesto. La Torre. Confesso. La Torre confessa che quel manifesto lo spingerà ad acquistare forse anche le polemiche. Ma non perché lei sia omosessuale. No, che c'è? Questo non mi pare rilevante. Non è rilevante. Ma ha fregato. Vabbè, comunque... E a un certo punto nella discussione Buttiglione ha detto, beh, perché poi alla fine le pensioni dei gay saranno pagate dalle famiglie che fanno i figli, cioè dalle famiglie eterosessuali. Io non lo capivo questa cosa. Ed effettivamente lui voleva dire che sostanzialmente i gay, quelli che prendono la pensione, vanno un po' a scrocco degli altri che fanno i figli, perché evidentemente facendo i figli poi ci sarà un maggiore contributo al sistema pensionistico, eccetera, eccetera. Come a dire che i pensionati italiani vanno a scrocco degli immigrati, perché noi abbiamo scoperto che una quota consistente di contributi previdenziali agli immigrati con i quali figli, vengono eccetera, eccetera. Dal lavoro degli immigrati. Questa è la posizione di Buttiglione. Non commentabile, passiamo ad altro. Signora Francesca da Roma. Eccola, finalmente. Eccoci qua. Cosa ci vuole dire? Buonasera Parenzo, siete troppo simpatici e intelligenti. Sì, però alzi un po' il volume perché non sentiamo niente. Sì, sto stirando. Allora, tre cose che sta facendo? Come? Che stava facendo? Sta stirando. sto strillando, dico. Più ah, di così sta non strillando, posso. Sta strillando, ho capito. Sì, allora tre cose, Cruciani. La prima è una preghiera. Per favore non mi mandi più in onda Grillo, perché mi sta infettando la radio. Addirittura. Per favore, no, la prego. La seconda volta eravamo ancora con quel Nicolò da Genova prima, non abbiamo concluso con Nicolò, avevamo interrotto. Comunque, Francesca, non lo so, dica lei. Di no. La seconda cosa, per salvare Buttiglione, ovviamente, anzi, per lanciargli un'ancora, appunto, poveraccio, forse voleva dire che siccome non producono figli, quindi non producono questo bene primario, ossia la forza lavoro, allora vanno un po' a scrocco. Ecco, voleva dire questo, però va bene, in ogni caso. Sì, ma voleva dire questo, è una cosa senza senso, cioè un omosessuale lavoratore versa i suoi contributi, naturalmente poi la pensione è frutto di tutti quelli che versano i contributi, però insomma è un ragionamento che non ha nemmeno, cioè da qui, su cui non si può nemmeno iniziare una discussione, è talmente fuori cioè è veramente senza senso, cioè non c'è un appiglio, dice iniziamo a discutere, sì è possibile che no, non c'è un appiglio da cui iniziare la discussione. Vabbè, allora Francesca? Vabbè, a prescindere, no, una cosa molto più seria di questo. Io volevo dire un qualcosa sulla questione della Libia, che però, anticipando che sono un'elettrice di destra, sono una che ovviamente sostengo Berlusconi personalmente, anche ho fatto anche la tesi di laurea su di lui. Lui ha fatto una tesi di laurea su Berlusconi? Sì, esatto. Sì. Dobbiamo sentirci responsabili noi con la nostra famosa e santa democrazia che abbiamo ovviamente in Europa. Va bene, allora andiamo al sodo. Dobbiamo sentirci responsabili di aver distrutto un paese che al quale gli abbiamo rotto le scatole per 200 anni forse e che continuiamo a rompere le scatole. Abbiamo distrutto un paese che forse si stava riprendendo. Ma chi è che ha distrutto un paese? Noi, l'Occidente, la Francia, l'Italia, cioè quelli Francia, che intervengono appunto, in Libia distruggono la Libia. Noi, Stati Uniti, Francia, a questo punto anche l'Italia. Beh, c'era anche un certo Gheddafi, c'è ancora un certo Gheddafi in Libia, le voglio segnalare. Cioè, ma sì, assolutamente, io ho vissuto in Libia. Non è che sono gli altri che distruggono la Libia. Comunque lei è contraria all'intervento armato in Libia, ma mi sembra di capire, sbaglio. Sì, anzi, ci dobbiamo sentire responsabili anche noi che abbiamo scelto questi rappresentanti che purtroppo non possiamo cambiare. Però lei che dice di votare per Berlusconi, le segnalo che Berlusconi è passato dal non disturbo, non voglio disturbare Gheddafi ai bombardamenti, insomma, cioè, lei non ha notato questo passaggio, no? Due soluzioni, anzi, spero due cose. La prima che o Sarkozy forse gli ha offerto un affare più grosso di quello che gli ha offerto Gheddafi un po' di mesi prima, oppure Sarkozy l'ha minacciato, perché solo questi due motivi vi possono far pensare. Lei non si capacita del fatto che Berlusconi sia passato, diciamo, da una situazione come quella che abbiamo descritto fino ai bombardamenti. Questo è una caratteristica degli italiani, però spero di no, perché... Va bene, grazie, 800 24 00 24. Signora Torre, ma a lei per esempio questa campagna del Partito Democratico con la spada della Lega che si ammoscia... oggi Bersani ha detto a Roma, certo è una metafora, ai leghisti si ammoscia, mentre poi in Padania c'è Radio Padania. Piace questo tipo di metafora, questo tipo di linguaggio? Guardi, il manifesto mi è piaciuto. Il manifesto mi sembra efficace, anche perché riesce a mettere in chiaro qual è il motivo di critica che noi rivolgiamo in questo momento alla Lega, e cioè una forza politica che fa la voce grossa e poi... ma una forza politica che si sta preoccupando soltanto di aumentare il suo potere contrattuale nei confronti di Berlusconi, di curare il suo elettorato e i suoi minuscoli interessi. Tra l'altro io non vorrei mai che si trascuri un aspetto, che la Lega è un partito che ha una precisa localizzazione, non è un partito nazionale. Vabbè, eppure no, eppure condiziona in maniera determinante scelte di politica nazionale soltanto in nome e a tutela di interessi di una parte del paese, peraltro a mio avviso anche mal rappresentati. Perché poi in realtà la Lega a Roma sta condividendo con Berlusconi una serie di scelte che penalizzano proprio coloro i quali loro aspirano a rappresentare. Però voi voi la corteggiate anche un po' la Lega, ci sono stati delle avance. Senza ricordare la costola della sinistra che disse D'Alema in una fase diversa. Allora, sbagliò D'Alema a dire quella frase, secondo lei? Guardi, innanzitutto quella frase non la disse D'Alema. D'Alema no, come D'Alema riportò il frutto di un lavoro fatto dalla CGIL che aveva certificato che una parte consistente di iscritti alla CGIL in quella parte del paese avevano votato per la Lega. Però disse in questo senso una cosa alla sinistra. Dopodiché la mia opinione, io sono qui per dire la mia opinione, è che la Lega rappresenta la destra di questo paese, nel senso che interpreta gli umori più primordiali, cerca di strumentalizzare quel sentimento di paura. Cioè è razzista, vuole dire la Lega? Lei arriva a dire che è razzista o no? È razzista, certamente ha posizioni che su una serie di questioni hanno un atteggiamento razzista. Magari a parole, però nella zona di governo. Se lei dice che in alcuni momenti la Lega è razzista, poi succede che il segretario del suo partito va a fare un'intervista, cioè con i razzisti. Il segretario, ha fatto un'intervista alla Padania, il segretario del mio partito ha semplicemente utilizzato quella occasione per dire che non siete razzisti, per mettere in risalto la contraddizione di una forza politica che dichiarava di volere una riforma di tipo federalista e sta vendendo per federalismo una riforma che secondo me è molto penalizzante. Però Bersani disse un'altra cosa: venite con noi, vi diamo il federalismo, abbandona il puzzone. Questa era la sintesi del messaggio. E poi la seconda cosa disse: venite con noi, non l'ha mai detto. Cioè, noi vi garantiamo il federalismo. La sinistra vuole il centro-sinistra, vuole federalismo. Disse che la sinistra vuole fare il federalismo. E poi disse anche io quando vi dicono che siete razzisti non esatto. La cosa non è vera, la Lega non è affatto razzista. Io sono convinto che la Lega in alcune situazioni ha atteggiamenti tipici di una forza razzista. Maroni? Maroni no. Cioè in alcuni momenti, cioè in alcuni esponenti. Alcuni... Cioè a parole, non negli atti, o anche degli atti di governo, lei dice. A parole o anche degli atti guardi, di governo? Proprio in queste ore, su tutta la partita dell'immigrazione, c'è una sentenza che ha certificato come il nostro paese ha adottato un provvedimento introducendo il reato di clandestinità, che è una scelta. Non è un provvedimento razzista quello, cioè il reato di clandestinità è stato bocciato. È ispirato da una cultura che ha anche elementi di razzismo. Quindi Maroni anche lui è razzista? Ma io non ho detto che Maroni è razzista, io sto dando un giudizio politico su comportamenti politici. Non do giudizi personali sulle scelte personali, tantomeno di Maroni, ci mancherebbe altro. Andiamo a dove andiamo? Andiamo in provincia di Roma. Giovanni, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Sento spesso la vostra trasmissione e sento spesso che ci sono dei pareri discordanti su Grillo. Ora io penso che quando mandiamo Grillo ogni volta è un disastro, scatena. È un 200.000 telefonate, è un disastro. Ho sentito prima basta che mandiamo 20 secondi su Grillo, arrivano telefonate di persone indignate, no, non trattate male Grillo, eccetera eccetera. Vabbè, comunque Giovanni dica. Niente, ho sentito la vostra ascoltatrice che mi ha preceduto, la signora Francesca da Roma, che addirittura era schifata di sentir parlare di Grillo. Ora io credo che negli ultimi 20 anni l'unico movimento pulito, giovane, che cerca di rinnovare la politica italiana sia proprio quello di Grillo, indipendentemente dal personaggio che è il personaggio che è. Sì, no, ma non è che si può prescindere dal personaggio, cioè senza Grillo non esiste il Movimento 5 Stelle, cioè non è che nasce da nulla il Movimento 5 Stelle, se non ci fosse Grillo non piglierebbe un voto, diciamo la verità, insomma. Questa è la... Comunque in alcune regioni, caro Parenzo, mi sembra che il Movimento di Grillo sarà fondamentale. Beh, lo è stato in Piemonte per la vittoria in alcune città, di Cotta. Un po' meno, perché adesso voglio dire non c'è lo il turno, sarà a Milano forse. Col doppio turno un po' meno, forse. Io credo che Grillo raccoglierà anche in queste amministrative molti voti. Allora, c'è un significativo consenso, perché interpreta in questo momento un sentimento che io personalmente non condivido, perché parte da una critica forte, anche fondata su tutta una serie di questioni, ma dalla stura ad un atteggiamento antipolitico che poi alla fine, secondo me, porta acqua soltanto al mulino, almeno dal punto di vista culturale, della destra. Allora, collegamento con Libero, caro Parenzo. Vittorio Feltri in esclusiva alla Zanzara, il direttore. Grande esclusiva. Feltri buonasera. Parla alla Zanzara. Direttore, come sta? Bene, bene, grazie. Voi tutto bene? Beh, sì, lottiamo come leoni, direttore. Siamo qui a parlare della Lega, di Berlusconi. Come finisce questa partita? Lei conosce bene i personaggi, direttore. Come finisca non lo so, cioè, tutto però torna, ho la certezza che finirà male. Ah, finirà male, cioè? Non si ricuce questo rapporto tra Lega e Berlusconi? Ah, può darsi anche che si ricuce, anzi ne sono quasi sicuro, però la vicenda italiana in questa fase non è destinata a concludersi bene. Ma Berlusconi può cadere più per questioni di mutande, cioè processi vari, o per la politica estera, o per nessuna delle due cose? Ma la politica estera in questo momento è abbastanza incomprensibile, almeno dal punto di vista di chi non è addentro alle segrete cose. Il cittadino osserva e è stupito, non ha capito come si possa fare una guerra a un signore che fino a poco tempo fa era un amico e che quando è cominciata la guerra il premier disse: sono addolorato, non voglio disturbare, cioè. Insomma, c'è un po' di confusione, probabilmente più nella comunicazione che nei fatti, perché mi rifiuto di pensare che Berlusconi abbia partecipato a questa sciagurata guerra così per spirito sportivo, tanto per esserci, insomma. E perché ha partecipato secondo te? Perché l'alleanza, le alleanze eccetera, era impossibile dire no? Io credo che tutto sommato Berlusconi pensi: se magari Gheddafi perde, come è probabile, vincono questi ribelli, se non altro perché hanno un appoggio considerevole da parte dell'Occidente, sì. È chiaro che poi ci sarà una spartizione, almeno a livello di affari economici, e alla spartizione Berlusconi credo voglia partecipare, magari in una posizione di minoranza, ma è sempre meglio avere poco che non avere nulla. Senti, tu che conosci bene anche le vicende di Casa Lega, tutto questo... tutto questo strepitio, queste proteste, questa posizione di Maroni sulla questione della Libia, alla fine è una muina elettorale o qualcosa di serio? Ma intanto bisogna dire che la base della Lega è fortemente incazzata, tanto per usare un eufemismo. Un eufemismo, certo. Quindi è chiaro che i dirigenti della Lega si preoccupino, temono di perdere consensi e quindi cercano di criticare gli atteggiamenti assunti dal governo, dal premier in particolare, in modo che la base trovi una certa sintonia con i capi, con i leader. Questo è già un primo passo, perché le dichiarazioni pesanti fatte da Bossi non credo che siano state fatte solo a causa di un momento d'ira, ma per quietare la base. Dopodiché è anche probabile, anzi sarei disposto quasi a scommettere, che in ultima istanza la Lega trovi un accordo e dica: beh, dobbiamo portare a casa il federalismo, quindi dobbiamo sopportare anche quest'ultima umiliazione, però la posta in palio è molto importante, vediamo di assicurarcela, e portare in Padania come un trofeo il federalismo può riconquistare i consensi che in questo momento la Lega rischia di perdere. Quindi c'è una parte, diciamo così, elettoralistica che non si può trascurare, e poi c'è anche un fastidio, credo, nel subire le cose dall'alto, cioè Bossi desidera essere interpellato prima che si prendano delle decisioni. Ma tutto questo si ricompone, martedì si troverà il modo, come io credo. Anch'io lo penso, proprio perché la Lega non... Se non porta a casa il federalismo è rimasta tanti anni al governo senza ricompensa. C'è una cosa che riguarda il giornale, no? Infatti volevo chiedere al direttore, cioè un quotidiano, diciamo, che tu conosci così diretto da Sallusti, che succede? Di proprietà, credo ancora, di Berlusconi. In questi giorni sta facendo una battaglia contro Tremonti. Direttore, lei che conosce bene questo giornale, questa di famiglia, battaglia è una boiata pazzesca o dietro c'è il placet di Berlusconi, o è tutto frutto della testa di Sallusti, direttore? Beh, ma non posso dare una risposta seria, nel senso che non conosco i fatti. Cioè, anch'io ho letto il giornale, mi sono stupito, come sicuramente vi siete stupiti voi. Sì, però non posso sapere quali siano le motivazioni che hanno mosso la mano malandrina di Sallusti. Io non posso escludere che sia una sua, diciamo, una sua iniziativa, e cioè basta. La coppia Berlusconi Santanchè, posso avere la certezza, no, diciamo. Certo, la coppia Berlusconi e la coppia Sallusti Santanchè, così, questo lo dico io, il ticket che fanno tutto di testa loro, eccetera, senza che ci sia un placet da parte di Berlusconi, oppure sapendo che Berlusconi in fondo è contento di dare un colpetto a Tremonti. Ma io non credo che ci sia diciamo così un'intenzione bellicosa in Berlusconi contro Tremonti. Certo è che in questo momento il torrone ce l'ha in mano il ministro dell'economia, questo è un fatto. Che questa cosa possa anche infastidire Berlusconi, insomma, e lo ritengo probabile. Però e questo non può aver ispirato il giornale, no? Cioè, lei non ce lo vede Berlusconi che chiama Sallusti, che si sente con Sallusti e dice: perché non mi fa una bella polemica su Tremonti che rompe le scatole? C'è stata l'intervista di Galan, io, no? Anche. Questo però, io voglio dire, ho conosciuto Berlusconi in due circostanze, ma conosciuto non intendo dire che l'ho incontrato al bar. La prima dal 94 al 98, alla fine del 97, per quattro anni a me Berlusconi non ha mai chiesto niente. E dopo? Poi sono tornato al giornale, ci sono rimasto un anno e cinque mesi, e anche in questa fase io ho fatto alcune cose, per esempio le critiche anche aspre a Fini, e tutti attribuivano la mia campagna, chiamiamola così, giornalistica, a Berlusconi, e lo stesso Fini poi ha chiesto la mia testa, eccetera. Però se la prendeva Fini principalmente con Berlusconi, considerandolo il mandante, l'ispiratore, e invece non era vero niente. Questa cosa ce l'avevo in testa da parecchio, ma ce l'avevo in testa in tanti, tant'è vero che poi tutto ciò che io scrissi nel settembre del 2009 si è puntualmente verificato, quindi non c'era bisogno di Berlusconi per criticare Fini, eppure tutti dicevano che io ero stato ispirato. E per Sallusti è la stessa cosa, si può fare lo stesso ragionamento. Ma come posso pensare che diversamente? Dovrei avere degli elementi che suffragano questo sospetto. Senta direttore, in una parola prima di concludere, tra Tremonti, nella polemica tra Galan e Tremonti, lei con chi sta? Io sto con Tremonti, perché sono convinto che sia stato decisivo il suo contributo come lo sanno poi tutti, nel tenere a bada i conti. È vero che quando si tengono a bada i conti non avanzano quattrini da investire per la cosiddetta crescita, eccetera, ma sono anche luoghi comuni, perché i quattrini non ci sono. Quindi non è che Tremonti non dia i soldi perché è spilorcio, non dà i soldi perché non ci sono. Infatti noi abbiamo un welfare mostruoso avere il welfare, però dovrebbe servire alle persone che ne hanno bisogno. Invece qui tutti attingono al welfare e alla fine si spende troppo. Per esempio in Italia è l'unico paese d'Europa in cui si va in pensione ancora a 58-60 anni, mentre nel resto d'Europa a 65 o addirittura a 66. Con Tremonti, grazie, a presto. Grazie, pubblicità. Direttore. Eccoci in diretta con la Zanzara alle 20:00 24:00. Qualche domanda conclusiva a Nicola Latorre, senatore del Partito Democratico. Beh, io però credo che ci sia un problema, certamente i problemi della maggioranza ci sono evidenti, eccetera eccetera, però anche l'opposizione, insomma, un governo, se ci fosse dall'altra parte un'alternativa credibile, è evidente che cadrebbe immediatamente. Ora, perché non si riesce a capire l'opposizione da chi è? Ci sono tante opposizioni, ma non c'è una opposizione visibile con un suo leader. Questo è un limite dell'opposizione oggi. Innanzitutto mi faccia dire con sincerità una cosa, che questa argomentazione che manca un'alternativa credibile, discutiamone, però è diventato un refrain che serve a giustificare il fatto che noi dobbiamo tenere in piedi una maggioranza che non c'è più e un governo che sta danneggiando il paese. Vabbè, questa è una valutazione penso, politica da parte dell'opposizione. Lo dico sinceramente, che in questo momento qualsiasi alternativa è meglio dell'attuale governo. Cioè qualsiasi alternativa che significa? Detto questo, non c'è dubbio che noi abbiamo un compito, che è quello di rendere credibile un'alternativa che evidentemente, se lei come ritiene giustamente di farmi questa domanda, non viene percepita come credibile. Ma perché i cittadini non sanno neanche l'alleanza, cioè guardi, con chi governerete il questo, paese, attenzione, oltre che il problema di leadership. Ma innanzitutto noi abbiamo formulato, il Partito Democratico ha formulato al paese una proposta concreta, ha offerto anche un terreno di confronto a tutte le forze di opposizione e ha indicato anche un leader sostanzialmente. Noi il leader ce l'abbiamo, si chiama Pierluigi Bersani. Sì, d'accordo, però... Dopodiché questa iniziativa politica deve concretizzarsi. È quello che stiamo verificando in questi giorni. Allora, se domani mattina casca il governo e si va a votare. La sua coalizione ideale qual è? Guardi, quella di Nicola Latorre, la coalizione ideale con cui andare alle elezioni. Io penso che noi dovremmo cercare di costruire una coalizione. D'Avendola? No, tra tutte le forze di opposizione. Beh, ho capito, ma questo non è che può andare da Casini con D'Avendola a Montezemolo. Io innanzitutto ritengo, per esempio, che tra noi e Sinistra e Libertà ci sono molti punti di convergenza che ci consentono di fare non solo un'alleanza elettorale, ma anche di costruire un processo politico che può guardare ad una prospettiva PD comune. E SEL, poi si, dei valori, sì o no? Si tratta di verificare con l'Italia dei Valori se c'è anche in una compiuta proposta di governo una convergenza programmatica. Io penso che noi si possa cercare questa alleanza. Dopodiché bisogna verificare se, siccome questo terzo polo è una categoria dello spirito, perché è in realtà... Questo non è male. È una categoria dello spirito, non esiste in sostanza. Ma no, perché è un insieme tra una forza politica, quella dell'UDC, che si propone con un progetto centrista alternativo al centrodestra e autonomo dal centrosinistra, e poi? Mentre Fini propone un progetto di rinnovamento del centrodestra. Lei ci andrebbe con Fini? Si allerebbe con Fini? Io penso che con Fini sarebbe credibile un confronto parlamentare per fare le riforme insieme, ma dubito che si possa fare un'alleanza elettorale. Siccome dice tutto non qui. Esiste il terzo polo, cerchiamo di PD, verifichiamo. Però questa Casini, è l'idea che ho Casini, io. Casini con Vendola non ci vuole andare. Non ci vuole andare. Vuol dire che si prenderà la responsabilità di andare da solo e o vinceremo le elezioni senza Casini o si prenderà la responsabilità di far vincere le elezioni a Berlusconi. Vabbè, ma non è un dramma questo... se uno vince secondo... Il problema è che noi... ha fatto chiarezza. Possiamo mettere insieme soltanto un'alleanza per battere Berlusconi, dobbiamo mettere insieme un'alleanza di cui si è convinti anche per governare il paese. È il vecchio Ulivo sostanzialmente. L'alleanza ideale è Partito Democratico, Sinistra e Libertà e Italia dei Valori. Poi se Casini ci sta bene, altrimenti restiamo così. Io penso che noi dobbiamo partire di qui. Bene. Queste tre forze si leader come si sceglie? Primarie, non primarie, come lo scegliamo? Il leader, la mia opinione è che l'idea di fare le primarie è un'idea che può essere presa in favorevole considerazione. Rischiosetta le primarie. Però personalmente io non la credo neanche così rischiosa, però penso che noi dobbiamo mettere in campo la candidatura di Pierluigi Bersani che io credo che Bersani vinca. Ma insomma, si devono fare queste primarie o no? Ma io questo lo dobbiamo discutere con i nostri alleati. Ma non erano le primarie, non erano il vostro mantra? Sì, no, sono uno strumento di scelta della leadership che noi confermiamo. Ma se noi andiamo con altre forze politiche, dobbiamo condividere con le altre forze politiche anche. Non è che possiamo imporre il nostro modo di pensare. Noi vorremmo fare le primarie, discuteremo con gli altri se è il caso di farle. Noi metteremo in campo il nostro candidato. sia nell'un caso che nell'altro, il nostro candidato è Bersani, che non è soltanto il leader del più grande partito di opposizione, ma anche una persona che sta dimostrando di avere un'idea del futuro di questo paese. Renzi non ce lo vede come futuro leader del centrosinistra, no? Io Renzi, io ho una considerazione molto positiva. O parla troppo del Partito Democratico? No, io ho una considerazione positiva di Renzi, e credo, lui ha dichiarato di voler fare il sindaco di Firenze, e io mi auguro che non si rinunci in alcun modo a un contributo importante come quello che può venire da Renzi. Non mi dica cose positive di tutti. Rosy Bindi è il presidente del nostro partito. Io qualcuno l'ha proposta anche come leader del futuro, no? Sì, Vendola l'ha proposta come candidato, come candidato leader. La Bindi rispose dicendo che il leader su quale si convergeva era Pierluigi Senta, Bersani. I suoi rapporti con D'Alema come sono? Com'è che non ottimi. Detto? Ottimi, virgola, ottimi. Grazie. Punto. Ottimi, grazie. Ottimi. Altra grazie. Domanda? Ottimi. Sono veramente ottimi. Naturalmente, siccome io devo molto a D'Alema, nel senso che ho appreso da lui molte delle cose che riguardano il nostro impegno politico, la cosa più importante che mi ha insegnato è di avere il coraggio delle mie opinioni e di non preoccuparsi di battersi perché possano affermarsi, anche quando queste non coincidono con quelle degli altri. In 30 secondi, qual è stato il vostro dissidio principale? No, non c'è stato nessunissimo dissidio. Nessunissimo dissidio. Si è costruita questa favola di una presunta rottura tra me e l'onorevole D'Alema, perché io in una occasione ho lanciato l'idea di prevedere un'altra tappa nella costruzione del processo politico della realizzazione del Partito Democratico, che si aprisse a nuove forze, che realizzasse non avete litigato. Pensavo e sono convinto di questo, che con Vendola si debba portare avanti un discorso di questa natura, e questa è stata interpretata come una posizione diversa rispetto a quella di D'Alema. Probabilmente in parte lo è anche, ma è un'opinione di cui sono assolutamente convinto. Bene, abbiamo la pubblicità, torniamo subito, grazie. Eccoci di nuovo in diretta, la Zanzara, 800 24 00 24, 29 minuti, andiamo a Siracusa. Gioele, buonasera. Sì, buonasera. Sì, poi collegamento speciale, lo stiamo cercando di realizzarlo proprio in questi istanti con una persona molto importante che è in via 20 settembre. Sì, sai che c'è un ministero in via 20 settembre. Ministero dell'economia, certo. Persona molto importante, non ti dico chi ancora, non ti dico chi. Via 20 settembre chi è? Potrebbe esserci sottosegretari. Se fai tutta questa enfasi, cioè, tra poco ci colleghiamo. Voglio creare un po' di suspense. Gioele, dica. Sì, io vorrei essere in diretta se è Tremonti, Salve, salve. Non si preoccupi, Gioele, andiamo avanti. Dica. No, perché è una persona che gradisco in particolar modo, anche se io chiamo dalla Terronia, mentre loro sono padani, in effetti tutti i torti non ce li hanno, secondo me. Lei parlava sempre di Beppe Grillo, parla sempre di Beppe Grillo. A me sembra che Beppe Grillo parli con cognizione di causa, al contrario di Berlusconi che fa proclami, parla, dice, poi alla fine. Cioè, secondo lei Grillo parla con cognizione di causa, invece Berlusconi no. Cioè, ma sì, tra guardi, i due l'ubriaco e Berlusconi. Guardi, io sono di Siracusa. La perché già come di Siracusa. Il fatto che lei di Siracusa non rileva. Facciamo una raccolta differenziata. Ma bravi, allora? Cioè, ma a rigor di logica, un ministro dell'ecologia, cioè dell'ecologia di una determinata città, non impone al sindaco di attrezzarsi. Scusi, ma non ho capito niente, Gioele, che cosa c'entra? Prima non esiste... Fa polemica con la Prestigiaco, perché anche lei dice... Che non è ministro dell'ecologia, è ministro dell'ambiente, è un po' diverso. Nel senso, si chiama ministro dell'ambiente. Però, cioè, si rende conto. Cioè, qua si parla di nucleare quando noi abbiamo... Ma cosa c'entra il nucleare? No, ma cosa c'entra nel paragone tra Grillo e Berlusconi? Non ho capito perché bene. Perché Grillo parla di fatti concreti. Berlusconi si è non solo dice cose che non stanno né in cielo né in terra, poi se le rimangia. La sintesi è Berlusconi, Grillo è meglio di Berlusconi. Questa è la sostanza. No, non vedo non il paragone, ma comunque. Adesso non, se la stringiamo così, mi sembra abbastanza riduttiva la cosa. Però fare polemica su una persona che comunque è un comico, nasce come comico. Ma non lo facciamo su tutti la polemica, anche su Berlusconi quando dice, secondo noi, delle baggianate pazzesche. Cioè, non è che ci limitiamo a Grillo. Cioè, ho sentito delle cose di Grillo ieri in un comizio in provincia di Verona, mi sono sembrate delle follie, le ho mandate in onda. Sì, va bene, perché... quel fatto lì, vabbè, anche ho capito, Berlusconi, ma che non dire, è quando un uno comico, fa il comico, fa il comico. Spara. Quando uno fa il politico, fa il politico. Poi ci possono essere politici comici, ogni tanto Berlusconi fa il comico facendo il politico, va benissimo, però, però se un comico fa politica si faccia criticare, scusa, no? Par condicio, cioè, amico mio, par condicio, cioè, parla Grillo e noi dovremmo stare là a pendere dalle sue labbra senza dire nulla. Però non lo so, io ci sento sempre un pochino di io capisco che lei è un po' di parte, la posso ma anche io non sono comprendere. Di parte, sono dalla mia parte, non da, non sono dalla, da parte. Che parte è la sua? Allora anch'io dovrei essere dalla mia, però mi rendo conto che ad esempio un ministro come Tremonti è un ministro che va bene, uno come Marroni che mi va benissimo, mentre se andiamo a vedere tutti i ministri siciliani, cioè sono terra terra. Non piacciono i ministri siciliani, vabbè, d'accordo. Ma lei si rende conto di Alfano? Cioè, ma no, non mi rendo conto, se non mi dice una cosa concreta non mi rendo conto, di che cosa mi dovrei rendere conto? Scusi, Gioele. Lei si rende conto di Alfano? Di quello che gira intorno alla PDL. Di cioè, che ma lei parla con i puntini di sospensione, ha capito, no? Ha capito che gira intorno al PDL, cioè abbiamo la Brambilla che va al Vinitaly con la Coca-Cola, Angelino Alfano che sa quali sono i problemi della Sicilia, per carità, e sbagliato, cioè è lo stesso paragone che di Mastella con Pecoraro Scanio, che non riuscivano a risolvere il problema dei rifiuti a Napoli. Cioè, la stessa cosa succede qui. Va bene, cioè, però insomma, possiamo parlare all'infinito di quelli che sono, di quelle che sono le deficienze del governo, per carità. La ringrazio. Resti con noi, però, perché... Che succede? C'è il ministro o no? Cioè, ma c'è o non c'è Tremonti? Ministro Tremonti, buonasera! Guarda, Cruciani, basta con questi scherzi. La giornata è bella, quando dura poco, sono andati via gli antipatici, ora siamo arrivati noi che siamo simpatici, anche la mia imitazione è sempre quella che riesce meglio. No, scusi, però Tremonti, lei l'altra volta ci ha detto al telefono che c'era uno che era un fuoriclasse dell'imitazione, che faceva la sua imitazione, ed era un deputato del PDL. Pare che sia bravo anche Sacconi, è vero ministro? Sacconi è bravo? Anche no? Sacconi è bravissimo, ma io confermo che il mio migliore imitatore è quello che avete in studio questa sera. Quel giovanissimo deputato quel del PDL che fra poco, ci raggiungerà. Però volevo fare una domanda a Tremonti che ha veramente pochissimi minuti per noi. Ed era questa, ministro, perché tutti stanno aspettando delle tasse, le tasse no, le non tasse, la bassa mai quello ma lì. No, ma lasciamo perdere le tasse, ogni volta l'abbiamo affrontato questo discorso, ma la questione c'è lei dietro le posizioni della Lega di questi giorni, come sospetta, come scrive Alessandro Sallusti sul giornale? Come vede, sono apprezzato anche in Sicilia, quindi il mio apprezzamento è per tutto lo stivale, diciamo. Ma lei sta cercando di eludere la domanda, è perché l'ascoltatore che ha chiamato prima, chiamava da Siracusa, ha detto a me piace Tremonti, d'accordo, ma la cosa che voglio capire da lei, è lei l'istigatore della posizione della Lega sulla Libia in questi giorni, sì o no? Mi dia una risposta chiara. Dai, per favore, Cruciani, il gioco è bello quando dura poco. Dai. Va bene, abbiamo il traffico, torniamo subito. Ministro, resti lì un secondo, non se ne vada, lo so, abbiamo il traffico. Purtroppo non possiamo cambiare la scaletta perché siamo in collegamento con il Ministero dell'Economia, con Giulio Tremonti. Eccoci, ancora alcuni secondi con Giulio Tremonti che è rimasto per noi qui. Fagli questa domanda sulle tasse, avanti, così sei contento, dai. Ministro, queste tasse le abbassano, queste aliquote. Siamo dal 94 che aspettiamo questa rivoluzione liberale, ministro. Guarda, sono tutti buoni a fare i ricchi con i soldi degli altri, caro Parenzo. Se fosse il mio imitatore a darti la risposta, ti darebbe questa. Ma insomma, è vero o no? Adesso teniamo a cose meno pesanti. Diciamo. Guarda, non vorrei che qualcuno sentendo la radio pensasse veramente questo è Tremonti. Allora, è preoccupatissimo Simone Baldelli. Simone Baldelli! È quasi indemoniato. Il vice di Cicchitto, capito? Il vice di Cicchitto. Certo. È il vice di Cicchitto? Vice di Cicchitto, deputato del PDL. Certo, da quando Italo Bocchino se n'è andato, lei e Corsaro... siete diventati i due Dioscuri, possiamo dire così, no? Di Cicchitto. E allora è preoccupatissimo il fatto che qualcuno, forse qualcuno là al Ministero dell'Economia, sì, cioè il ministro Tremonti, sì, possa, come dire, non dico arrabbiarsi, no, per carità, non si arrabbia mai Tremonti, è un ottimo carattere. Ma che dite? Ha un ottimo carattere, è per Malosetto su questo, lo no, sai, a me piace moltissimo un'imitazione di Tremonti bella, adesso non so quale scegliere, quella di Andro Mercù che fa, che ha fatto spesso da noi, e di Baldelli, non so scegliere qual è la migliore, ci devo pensare su. Se la batte, se la giocano. Durante la un'imitazione, insomma, ci fu anche una telefonata piuttosto arrabbiata di Tremonti perché diceva: non siete stati, non avete chiarito subito che non ero io, avete lasciato passare un'ora con la gente che chiamava, ma è davvero Tremonti. Chi è il migliore, Mercù o Baldelli? Se la giocano, dovrei sentire Mercù. Dovreste chiedere all'interessato. Però devo dire che una volta, dopo un comizio nelle Marche, salì sul palco, mi prese sotto braccio e disse: non solo è un bravissimo deputato, ma pare sia il mio migliore imitatore. Quindi dunque, io ho una certificazione originale, cioè, Tremonti, da lui. Tremonti certifica che il suo migliore imitatore, beh, anche è un po' con di una parte, certa autoironia. Come pronuncia la porca puttana? Come lo dice lui? No, lo dice mai o no? Non dice mai parola. Cosa dice? No, porca miseria. No, porca puttana era l'imitazione era di Guzzanti. Cosa dice? Ti senti meglio di Guzzanti nell'imitazione di Tremonti? Non ho capito. Nell'imitazione di Tremonti ti senti più, diciamo, più riuscita rispetto a quello di Guzzanti? Io ho un punto di vista molto più avvantaggiato rispetto a loro, perché io ho a che fare in maniera quotidiana. Quindi, diciamo, li conosco quasi tutti da tanti anni. Quindi conosco proprio il carattere, cioè le parole, un Cicchitto volendola fare proprio com'è che fa Cicchitto? Come fa Cicchitto? Sì, no, guarda, perché qui c'è tutta una vicenda che potrebbe anche apparire paradossale, e quindi per tutta una serie di ragioni, eccetera, e così via. E così, guarda, via cosa? Così via. E così via, guarda, sì. guarda c'è poco, c'è poco da ridere. Ma non qui, rido, perché... ho fatto la domanda. No, c'è pure fatto. Poco da dire che non ridi, perché se qua... Ma non litigate come l'altra sera Exit, scusa. No, perché qui ci sono delle cose anche Cicchitto, da chiarire. Ma scusi, che ha fatto l'altra sera Exit? È salito su una sorta di coso? Onorevole Cicchitto, che ha fatto? È salito su un No, io non sono salito su niente, guarda, io c'ero già seduto prima. Quest'altro non si... Questo è un furetto, guarda. È anche uno di furetto, parte. Dice sempre furetto, è vero. Ma... sinistra criminale, come dice? Devo dirti una cosa, meglio Cicchitto forse di Tremonti, poi sì, meglio Cicchitto di Tremonti, però Cicchitto ci lavora magari quotidianamente, è più facile, no? Ma poi Cicchitto è un personaggio che, diciamo, parlando tra noi uomini di spettacolo, ormai è arrivato alle cronache delle imitazioni recentemente, tra l'altro con una bella imitazione, una molto parodia bella, molto simpatica, fatta Neri Marco Re. No, fatta a quelli parla che calcio, con no. me a parla con me, sì, è vero, da, parla una, con me. Da un altro imitatore, ah, molto già, bravo, sì, quello che da cameriere. Lo mette nei panni di un metro, sì. E quindi sì, di cameriere anche con un grembiolino, con lo un doppio fa senso, molto romano, me. Ma molto bene. Va bene, 800 24 00 24, questo è Simone Baldelli. Quanto onorevole tempo Simone quanto Baldelli. Tempo dedica a queste cose? Nessuno, in realtà. Nessuno. Vengono naturali. Anche se sembra strano, ma io dedico sto scherzando, il 99% del mio tempo a no, però voglio dire, parlamentare. Ogni tanto ci pensa alle imitazioni, a... Beh, ogni tanto, chiaramente, quando vedo una cosa così singolare, dico questa e di sinistra? Rifaccio. Chi fa di sinistra? Chi conosce di sinistra? Beh, io di sinistra, mi ricordo in campagna elettorale, accompagnavo ogni tanto i comizi dell'ultima campagna elettorale, quella del 2008, con, vedete, perché Prodi dice, pagare le tasse è così bello, che bisogna mettere sempre di più, bisogna metterle. Ho detto che è Padoa-Schioppa, se vince alle prossime elezioni, si mettiamo le tasse per tutti. E chi ride? C'è da ridere. Oscar da Napoli 800 24 00 24. Oscar Giannino, no, si chiama Oscar da Napoli. Ah, non mi interessa. Oscar Giannino. Ma che significa di interessa? Ma da Napoli non è il cognome. Oscar da Napoli. Prego, buonasera, dica. Buonasera. Senta Cruciani, niente, io volevo ritornare sull'intervento dell'ascoltatore di una ventina di minuti fa circa, credo, dal Veneto, per quanto riguarda i compensi dei politici. Io non credo che il fastidio, l'indignazione degli italiani sia per quanto i nostri politici guadagnino, piuttosto nel rapporto prezzo-qualità. Cioè, lei per esempio è incazzato nel fatto che questa sera sente un deputato che viene alla radio a fare delle imitazioni? Spero di no. No, ma per l'amor del cielo, assolutamente no. Anche no, perché l'abbiamo abitato noi. Devo dire che era molto restio, è stato sempre molto restio, però finalmente siamo riusciti a convincere. Tra l'altro piuttosto bravo, direi. Come lo giudica? No. Che cosa è più cosa che funziona di più, Tremonti o Cicchitto o credo Prodi? Tremonti. Sembra allora bello. Dicevo che il fastidio degli italiani non è credo, almeno per quanto mi riguarda, non è in quanto i nostri politici guadagnano, ma in quanto i nostri politici ritornano al paese per quello che guadagnano. Per me potrebbero guadagnare anche il doppio di quello che guadagnano oggi, il triplo, quello che vogliono, ma che portassero però alla nazione. Sì, però sa, sono stati fatti anche molti calcoli da parte di alcuni siti sull'efficienza e sulla produttività di un parlamentare. La produttività di un parlamentare non può essere valutata, secondo me, dal numero di disegni di legge che si presentano, dalle interrogazioni, per carità, vale anche questo: se uno in una legislatura non fa nemmeno un'interrogazione o non firma un disegno di legge non suo ma insieme ad altri, chiaramente non ha senso. Però non è che la produttività, per esempio, c'è un sito specializzato che noi consultiamo molto, si chiama Open Polis, conosce anche Baldelli sicuramente, che fa tutti questi calcoli, che sulle presenze va benissimo per quello che riguarda le votazioni. Le presenze riguardano sempre le votazioni, quelle che leggete, non sono le presenze in generale, le votazioni in aula, le votazioni in aula e nemmeno in commissione. Ma poi c'è una sorta di calcolo piuttosto fantasmagorico, secondo me, che riguarda la produttività dei parlamentari. Cioè, l'attività di un parlamentare non è solamente quella di presentare disegni di legge. Ripeto, se uno non presenta nulla in 5 anni, va male. Però, insomma, è difficile calcolare la produttività dei parlamentari. Secondo me la questione fondamentale è la riduzione del numero dei parlamentari. Non è quanto paghiamo i parlamentari, ma è la riduzione. Evidentemente 900 rispetto ad altri paesi è un numero eccessivo tra i deputati e i senatori. L'abolizione delle province, ad esempio. Ma in generale le persone che vivono di politica in Italia sono troppe. Ci sono troppe persone, è stato fatto un calcolo, intorno a 3 milioni, considerando appunto consiglieri, gente nominata in vari enti, eccetera, eccetera. Troppe persone che vivono di politica in Italia. Questo è il punto. Al di là poi degli stipendi, insomma, gli stipendi poi più o meno sono allineati ad altri paesi. Anche secondo lei, Tremonti, il problema non è quello, no, Ministro? Il problema non è quello dei costi della politica. No, il problema è quello. Il Parlamento non è un lanificio. Il Parlamento, Ministro, non è un lanificio. Questa in realtà è una citazione di Martino, però è vero, nel senso... Cioè, ha messo in bocca a Tremonti, sì, una frase. Le ha messo in bocca un socialista, per molto dirla alla Galan, ha messo in bocca un socialista. Bello del paradosso. Siamo, lo dicono che non, lo dica che non siamo. Non lo so, spero bene tra di loro che ciascuno ami la rispettiva moglie, insomma. Però in realtà è proprio vero quello che dici tu, nel senso che il Parlamento, non essendo un lanificio, e la produttività non potendosi misurare un tanto al chilo, altrimenti questo meccanismo premia coloro che ingolfano il Parlamento con proposte di legge magari spesso astruse o con interrogazioni parlamentari delle non hanno neanche interesse ad avere una risposta, pur di far vedere che fanno qualcosa. Per esempio Scilipoti recentemente ha detto: io sono uno che in Parlamento ha presentato, sempre il tuo amico Scilipoti, ha presentato non so quanti disegni di legge. E, vabbè, insomma, Tremonti, Cicchitto sono quelle più riuscite per adesso. Che abbiamo? Che ci offri? Poi che c'è? Che c'è dopo? Berlusconi? Nel tuo menù. Berlusconi no. Berlusconi. Berlusconi, vabbè, Berlusconi è troppo già facile. Materia dove è un terreno troppo percorso. Troppo percorso. La Russa. E dai, allora ci mettiamo pure a fare Ignazio. No, volevo fare una cosa un po' più, visto che... Eccitante. Beh. No, non lo so, che un po' cosa? Più sexy. Volevo fare un piccolo saluto, volevo fare, no, se ascoltatori, volevo fare. Ex ministro dottor Parenzo e dottor Cruciani, voi siete molto cari, siete. Come? Siete carissimi, siete. Lei ha parole buone. Sapete quanto costate Radio 24? Siete carissimi, siete. Costichiamo, no, diciamo, costichiamo, però è normale, ci sono gli ascolti e tutto. Senta, scusi, ministro, dov'è, ministro, anzi, onorevole Bondi, dov'è finito in questi giorni? Dopo ormai... Sono venuto qui da voi per portare il mio saluto, sono venuto. Vabbè, è venuto... Sembra un francescano, quasi un uomo di pace, no? Però è troppo facile adesso che Bondi non è più ministro. Vabbè, l'imitazione lo facevi origina anche prima. Però sì, quando si incazza Bondi, i signori della sinistra, voi signori... Signori della sinistra, dovrebbero vergognarsi. Dovrebbero vergognarsi di attaccare il presidente Berlusconi, dovrebbero. Scusi, ma posso fare una domanda? Onorevole Bondi, ma perché alla fine ha deciso di lasciare, non ce la faceva più, non sopportava più le critiche? Qual è stato il vero motivo che l'ha portata fuori ad abbandonare il Ministero dei Beni Culturali. Sa, quando c'è una zanzara che continuamente ti ronza nell'orecchio, poi alla fine o decidi di fare quello o decidi di venire qui a prendertela con questi due mascalzoni conduttori. Mica ce lo vuole dire, secondo lui, qual è stato il motivo. Ma insomma, lei che adesso guarda la politica un po' dall'esterno, anche se vuole contribuire sempre al PDL, insomma, questo rimpasto perché non si fa? Perché non si fa alla fine sto famoso rimpasto? Voi due siete molto cari. Io vi proporrò al dottore per il rimpasto. No, ma noi non vogliamo fare. Non vogliamo entrare con il dottore. Lui, ah, no, lui. Egli. Costui. Scusi, lei Baldelli come lo chiama Berlusconi quando lo incontra? Se lo incontra? Presidente. Silvio. Presidente. No, io l'ho sempre chiamato presidente. Devo dire che sì. Presidente mi sembra. Allora. In modo più rispettoso al netto della confidenza. Bondi lo come lo chiamava? Come lo chiama? Insomma, chiamava... Eccellenza. Bondi credo che lo chiami il dottore. Il dottore. Cioè... Sì, perché coloro che medico, hanno sempre lavorato nello staff di Berlusconi hanno questo modo di chiamarlo, cioè lo chiamano il dottore. Cioè quelli più vicini lo chiamano dottore. Quelli che lavorano con lui, diciamo. Ah, vedi questa divisione? Il cerchio magico, diciamo, di Berlusconi, che non è quello della Lega, lo chiamano il dottore. Il dottore. Anch'io ho sentito qualche volta delle persone molto vicine a Berlusconi, Ah, di che parli? No, non parlo di nessuno, persone molto vicine a Berlusconi che lo chiamavano dottore, effettivamente il dottore. Così. Dottore. Al telefono, molto dottore, ed era Berlusconi. Sì. Lei ce l'ha, ma credo che questo fosse una cosa che originava già da quando Berlusconi era capo probabilmente nel suo lavoro, diciamo, da imprenditore lo chiamavano, le persone lo chiamavano dottore. Poi io che venivo dalla politica, secondo me poi uno, una volta che ha fatto il presidente del consiglio, va chiamato presidente. E lei ce l'ha il telefonino di Berlusconi, onorevole Baldelli? No, io c'ho il mio, tra l'altro sta in carica qui fuori, anzi grazie a Radio 24 dell'ospitalità. Ha il telefono personale, il cellulare privato, il 335, no? Quello che hanno dato in diretta a non so dove. Cioè lei per chiamare Berlusconi, se lo deve chiamare, come fa? Chiamo la segreteria, Marinella. Telefonino non ce l'ha. E come mai invece delle signorine, la signora Maristel, Polanco e tante altre signorine del cosiddetto bonga bunga di Berlusconi? Punto di domanda. Come mai? Sono affari di Berlusconi. Sono affari di Berlusconi. So, io come posso dare il mio se serve. Bondi come risponderebbe? Io dico posso dare il mio se serve, ma insomma. Di fronte a una domanda del genere. Basta la mia pagina su Facebook per chi è interessato. Insomma. Con numero di telefonino dell'onorevole. No, cioè, non c'è manco il mio. Ma Bondi, è solo come, per fare come risponderebbe una cosa privata? Come risponderebbe? Una cosa privata. I numeri. Sono relazioni private. Tipo. Voi date i numeri, date. No, ma che numeri? Pubblicità, ci sentiamo tra un attimo. Siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24. Fra poco collegamento con l'onorevole Casini. Ma che serata pazzesca! Sacco di ospiti, con l'onorevole Casini. Però prima volevo sentire Maria da Roma. Buonasera. Oh, finalmente, buonasera. Eccoci, dica. L'ambulanza. L'ambulanza, allora, che dobbiamo fare con l'ambulanza? Per chi l'ambulanza? Oppure la chiamiamo per lei direttamente, no? Ma poi a quello provvederò io. Allora, se faccio in tempo. Allora, a me piace Renato Zero. Mi piaceva tanto l'ambulanza di Renato Zero. Poi mi sono attaccata alla vostra ambulanza e mi sono persa nelle vostre... Ogni tanto mettiamo anche quella di Renato Zero. Persa nelle vostre parole e mi sono persa nell'ambulanza. C'è sempre Baldelli che ogni tanto perde la testa per qualche cosa. Onorevole Baldelli, Che è successo, onorevole Baldelli? Insomma, sì, grazie, quando senta ambulanza mi vengono tutti i brividi. È Renato Zero. Maria, dica. Ero nel traffico, avevo l'ambulanza dietro, praticamente dietro la mia macchina, e siccome voi l'avevate messa l'ambulanza, immaginavo che fosse la vostra, se non che non mi spostavo e avevo tutti gli sguardi, i clacson su di me. A un certo punto mi sono resa conto, ovviamente subito dopo mi sono resa conto, però insomma non è carino mettere, non è sicuro mettere l'ambulanza vera quando dovete portare via qualcuno. Devi cominciare a essere quella di Renato, perché accusati anche di questo. Maria, allora ho ricevuto una mail, noi utilizziamo questa cosa dell'ambulanza in maniera assolutamente scherzosa, naturalmente per prendere in giro qualche ascoltatore o qualche interlocutore che la spara grossa. Ho ricevuto una mail, Parenzo, nei giorni scorsi da parte di una addetto a non mi ricordo che servizio in un ospedale, addirittura forse un infermiere, un portantino, non mi ricordo che cosa. Si è offerto di venire da me. No, che si è offeso dicendo che se voi chiamate l'ambulanza significa un po' prendere in giro le persone che sono malate. No, è ospedale psichiatrico, era un gioco. È chiaramente un gioco, adesso non esageriamo. Perché lei dice addirittura che mandare l'ambulanza alla radio per chi ascolta e guida può essere di disturbo. Adesso qua, francamente mi sembra esagerato. Le dico che mi è successo, io ero ferma a un semaforo, non mi sono spostata perché voi mandavate l'ambulanza, io ce l'avevo chiesto. Signora mia, però basta guardare nello specchietto retrovisore, amica mia, adesso no, io non c'ho manco la patente. Quando mi era a tiro l'ho visto nello specchietto tranquillamente, però vi dico che la corrispondenza non era il massimo. E rimettete Renato Zero, insomma, tutto qui. Vabbè, ma Renato Zero lo mettiamo in ogni caso. La ringrazio. Marco da Lodi, buonasera signor Marco. Buonasera Cruciani, dica. Buonasera Parenzo. Molto brevemente, il mio intervento era per spiegare, secondo me, dove Giglione poteva aver ragione, almeno in linea tecnica, sul discorso della tensione degli omosessuali. Allora, scusi, su che cosa potrebbe aver ragione Buttiglione? Non ho capito. Secondo lei, tecnicamente, potrebbe avere ragione Buttiglione sulla questione della pensione degli omosessuali? Sì, no, le spiego qual è il ragionamento. Allora, noi cominciamo a chiamare. È acclarato attualmente che chi lavora oggi con i suoi contributi paga la pensione a chi è in pensione, giusto? Sì, vabbè. Allora, se è corretto questo, di fatto l'omosessuale, fra virgolette, che lavora in questo momento sta pagando con i suoi contributi la pensione di chi è in pensione. Vabbè. Però, contemporaneamente, alimenta, diciamo, il sistema pensionistico italiano come tutti quanti. Pardon? Ma non è che lo alimenta il sistema pensionistico italiano con i suoi contributi come facciamo tutti noi, ma non capisco la distinzione. Cioè, lei distingue un gay che paga. No, beh, la distinzione è assurda. C'è un gay che paga i suoi contributi e un eterosessuale. Cioè, a parte che non è che uno nella carta d'identità c'è scritto eterosessuale o omosessuale. Facciamo una premessa: io non sono né contro né pro gli omosessuali. Non mi faccio non è quella la questione. Allora? Era un ragionamento esclusivamente tecnico sul sistema. Ma i ragionamenti tecnici devono partire da una base di realtà. Qui non c'è nessuna. Ma se mi fa finire di parlare, vabbè, allora finisca, però io lo spiego. Se mi interrompe prima che abbia finito, non glielo posso spiegare. Me lo spieghi allora questo ragionamento tecnico. Allora, quindi siamo d'accordo sul fatto che il cosiddetto omosessuale in questo momento paga i contributi e paga la pensione a chi è in pensione adesso. Ok? No. Sì. I contributi di chi verrà dopo. Sì. Dovrebbero pagare la pensione di chi sta lavorando adesso, giusto? Sì, più o meno. Sì. Okay. Se l'omosessuale non mette al mondo dei figli, fondamentalmente quando lui sarà in pensione non saranno i suoi figli ad alimentare il sistema e a pagare la pensione. Anche un impotente allora, ma io non ho capito. Anche un single non omosessuale. Ma anche uno che ha problemi di fecondazione. Pensionistico attuale. Ma anche uno che ha problemi di fecondazione, ma che discorso è? Anche coppie che non hanno figli, no? Anche coppie che non hanno figli. Certo, assolutamente. Ho capito, ma che cosa c'entra? Cioè, cosa ma io non sto dicendo che Buttiglione abbia ragione in tot, soprattutto non sto condividendo il significato politico. Sì, ma non è che Buttiglione faceva un discorso generale su chi contribuisce di più o di meno al sistema sanitario nazionale e al sistema pensionistico nazionale. Buttiglione, siccome stavamo parlando di omosessuali, sostiene l'idea folle che i gay, dal punto di vista della pensione, sono mantenuti dagli eterosessuali. Questo è il ragionamento al succo, al sodo. Questa è la cosa di Buttiglione, il che è evidentemente una follia. Cioè, è inutile che lei cerca di spiegarmela tecnicamente. È una follia, punto. Poi andiamo a capo. O no? Pensionistico di chi verrà dopo, secondo me tecnicamente ha ragione. Tecnicamente poi, ha ragione. Età, si può condividere o non condividere il ragionamento politico che ne consegue. Però tecnicamente è così, cioè i gay dal punto di vista pensionistico. Ah, ecco qua. Gli omosessuali aggravano la situazione del sistema pensionistico. Lei si trova a casa? Sì, mi trovo a casa. Sì. Si trova a casa. Lodi. Poi può usare la sirena o può usare la canzone di Renato Zero. No, ma se non ci prende in giro, per lei ci vuole. Per lei, se lei ha fatto questo ragionamento, davvero, adesso per carità, le cure no, però no, insomma, ci rifletta un attimo. E la sua frase, la frase che lei ha appena detto, cioè i gay aggravano la situazione del sistema pensionistico italiano, c'è da rifletterci un po' sopra un questa po', frase, un po'. Leggermente sopra. Ci rifletta sopra, magari anche più avanti nella serata, quando è più tranquillo, più calmo, prima di andare a letto, e si accorgerà che è una stronzata pazzesca. Quando ci riflette un attimo, detto con tutto il rispetto, si accorgerà che è una stronzata. Perché tutto piano, Cruciani, pensavo che dicesse. Le dico questo. Invece, bam. Pier Ferdinando Casini, buonasera. Allora, le amministrative, l'UDC, che farà al ballottaggio nel caso in cui i suoi candidati non arrivino al ballottaggio? Mi spieghi? Ma cosa volete che vi dica? Si è detto di farlo ormai, sto terzo polo, si farà, io l'ho detto anche a Gianfranco, gli ho detto cosa ti metti a fare, ci messi a mezzi qua, ormai ci si è messi in questo guaio, facciamo finta almeno una volta, si fa il terzo polo, poi cosa vi devo dire, anche Gianfranco stava lì tanto bene al calduccio con Silvio, si è voluto staccare con quegli altri quattro, si fa il terzo polo, facciamo almeno una volta, facciamo finta, una sola. Ho capito, non è che almeno uno... prima del ballottaggio si fa finta e una dopo volta... è il ballottaggio, tutti per ognuno per la sua strada. Ma cosa volete che me ne freghi a me del ballottaggio? Sono mica candidato sindaco. Ma non io voglio Casini, fare ma il presidente del consiglio. Vabbè, vabbè, ho capito. Lei vuole fare il presidente del consiglio a Montezemolo? Ragazzi, qui bisogna che ci mettiamo d'accordo, possiamo mica essere 200 che si fa il presidente del consiglio, capito? Già a tener buono Gianfranco ce ne vuole, ora c'è anche quell'altro di là, su. Cioè, si calmi un attimo Montezemolo, no? Mi sembra una roba di buonsenso. D'altra parte, il buonsenso cos'è? Essere stati democristiani almeno una trentina d'anni. Ora io mica sto qui a far ballare la scimmia. Cosa sto a fare? A far ballare la scimmia. La scimmia, come dici? Abbiamo capito che Casini vuole fare il presidente del consiglio, non c'è niente da fare. Questo è chiaro. O almeno in subordine qualche altra cosa, non meno di quello che ho fatto. Il Quirinale. Guardi, in tempi di vacche magre, quel che passa si prende, non è che uno sta lì a fare... Sì, a fare... no, è chiaro. C'è Chipone, ha sentito Casini? Ho sentito, e devo dire che mi sono messi bene se considera il Quirinale una roba da vacche magre. Lo so, ma sai, all'ambizione non c'è limite. La politica. All'ambizione non c'è limite, non c'è è limite. È vero, va benissimo. Lì credo che nessuno, a parte il Cavaliere, vorrà mettersi di traverso. Senta, Cicchipone, un attimo solo, un ascoltatore può tornare da lei perché questa storia di Buttiglione ha un po', no? Ha un po' creato qualche polemica. Io non ci credevo, quando ieri ce l'ha detto in diretta, io non ci credevo. Eravamo un po' basiti, eravamo. Eravamo un po' basiti, in realtà non capivamo, perché cioè non siamo riusciti a capire come mai i gay sono, le pensioni dei gay sono sostanzialmente... pagate secondo lui dagli eterosessuali. Questa è l'idea di Buttiglione, cioè le pensioni dei gay, i gay mantenuti dagli omosessuali, dai figli degli eterosessuali. A me risulta al contrario, che io come gay stia mantenendo in questo momento parecchie persone di età, e lo faccio con gioia, da italiano a italiano, senza chiedere se sono etero, se sono gay, se sono di destra, se sono di sinistra. Ma se ci mettiamo su questo piano, io da domani non avverso più una lira alla previdenza sociale. Adesso no, per colpa di Buttiglione no, però qualcuno deve pure smentirlo, voglio dire, mica è l'ultimo che passa, è il filosofo del Papa. Sì, ma è il filosofo del Papa, certo, adesso non esagerare. Avrà tanti filosofi il Papa. Il Papa non è che avrà solo Buttiglione come filosofo. Ma è bravissimo filosofo, Buttiglione. Però insomma, ma insomma, perché Buttiglione ogni tanto se ne esce con queste cose qui? Secondo lei c'è proprio una fissazione? Perché insomma, c'è un problema personale, gli posso consigliare degli ottimi psicanalisti, psicosessuologi e psichiatri. Però c'è chiaramente. Dice che ha un problema, lei dice che ha un problema anche se di tipo sessuale? No? Non lo so. Beh, chiaro, se uno c'ha un'ossessione c'è sempre dietro un problema, no? Siccome su questo lui si è giocato addirittura, per nostra fortuna, il posto di commissario europeo, perché l'Europa non può accettare questo tipo di discorsi, perché è un posto civile. Quindi deve avere un problema personale. Secondo lei Buttiglione è incivile? Buttiglione è incivile da questo punto di vista? Assolutamente sì. Incivile, cioè non è degno di stare. Cioè, voglio dire, un paese serio secondo lei adotterebbe dei provvedimenti? Ma queste cose, parlare male degli omosessuali vuol dire parlare male di ogni minoranza, e la democrazia liberale esclude, come parlare male degli ebrei, delle persone di colore, e posso proseguire a lungo, dei rom. Ma questo ragionamento sulla pensione da dove viene, secondo lei? Qual è l'origine di questo ragionamento sulla pensione? Non l'ho capito. Beh, loro sono loro questi, i cattolici, perché purtroppo è la verità, non è una mia fissazione. Ragazzi, abbiate pazienza, dal Papa ai cardinali, a Buttiglione, a Giovanardi, a Labinetti, sono tutti a dire a turno. Il Papa, capisci? Qui Alessandro, c'è un deputato del PDL, è... Simone Baldelli, che è cattolico, dichiara di essere cattolico. Allora, Simone Baldelli, che stimo apprezzo e saluto, si alzi e dica che queste opinioni dei cattolici sono personali e non rappresentano il pensiero della Chiesa, che non è vero, il Papa ha detto delle cose tremende degli omosessuali, ma non può dire sia questo sia quello che stanno per santificare, non però si sa Alessandro perché. Tu hai ragione, cioè, su tutta la linea, anche quello che stanno per santificare, non ho capito. Ha detto delle cose tremende sui gay, quando ci fu il Gay Pride a Roma lanciò un anatema, d'altra parte il suo consigliere e capo della sua dottrina della fede era Ratzinger, guardate che qui in Italia non avete capito che il cattolicesimo rappresenta una delle ultime grandi chiese dell'arretratezza. E dunque punto questa di vista beatificazione come liberale. La giudichi tu? La beatificazione di un di come la giudichi questa beatificazione? Dal tuo di punto un uomo di vista di omosessuale, carisma, da omosessuale che però viene beatificato da chi non lo conosce per ignoranza, perché è stato uno dei papi dal punto di vista dottrinario, dal punto di vista dei contenuti tra i più regressivi degli ultimi decenni. È un papa conservatore, cioè papa un omosessuale detto, di fronte alla beatificazione di Giovanni Paolo II, che tipo di atteggiamento dovrebbe ha? Disperarsi, perché uno che diceva degli omosessuali delle cose spaventose, è uno che ha lanciato un anatema ai tempi del Pride durante il Giubileo, sì. È uno che ha detto tassativamente che le donne non hanno diritto di entrare nella Chiesa Cattolica esercitando dei ruoli sacerdotali. A me per esempio da liberale, da democratico, il fatto che donne e uomini siano discriminati in questo senso è inaccettabile. Ma il Papa non è un liberale, Alessandro, io sono d'accordo al 101% con la tua analisi, però non si può chiedere allora al Papa di essere forte, un liberale che la Chiesa Cattolica, non a caso, che per 20 anni alleata dei fascisti, è una presenza illiberale, ed è per questo che l'Italia non è liberale. Ma non puoi chiedere al Papa di essere Pannella, capito? Pannella è Pannella, il Papa fa il Papa, che deve fare, povero Papa? Guarda che stai dicendo una cosa. No, la prego. Aspetta, c'è Pannella qui. No, parla un'ora adesso. No, Alessandro, breve, questa è Radio 24, ma potrebbe anche essere Radio Radicale, perché qui Cruciani è uguale a Bordin e quest'altro non si sa chi cazzo è, però guarda, qui possiamo anche, no, perché tu non sei radicale, ma noi per 77 settimane adesso possiamo raccogliere anche le firme su alcuni questi, perché io e gli altri per tanti anni e 77 settimane raccogliamo contro la partitocrazia ancora, contro... No, perché gli Ernesto Rossi. Ma come Ernesto Rossi? Sono morti, Ernesto è bravissimo, per carità, però. E poi annunzio. Traffico, torniamo subito. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. Beh, però c'è un buttiglione pentito, mi sembra di capire, qui a, in collegamento con noi, perché questa sera abbiamo collegamenti continui, no? Se posso dire una cosa, Cruciani, forse ho detto una leggera minchiatina sul sistema previdenziale. Ma come? Le si pente di quello che ha detto, Buttiglione? Perché non sapevo che c'era il passaggio al sistema contributivo, quindi ognuno adesso, quando va in pensione, prende quello che dà. Prende i contributi che versa per tutta la vita, poi costituiscono la sua pensione. Dunque, tecnicamente è una stronzata quella che ha detto. Esattamente. C'è, è bufo, bro. Io sono bufo. C'è chi paone per tornare a un altro argomento che ha fatto discutere in questi giorni nel mondo omosessuale, questa storia sempre venuta fuori qui alla Zanzara del sindaco di Treviso, no? Il quale ha detto che vorrebbe proibire, stavamo parlando sempre qui dei gay, poi lui l'ha allargata a tutti, ma era quello lo spunto, perché non credo che il sindaco di Treviso Gobbo si scandalizzi per un bacio tra eterosessuali, invece pare che si scandalizzi per un bacio tra omosessuali e dunque vuole vietare, multare, poi non ci riuscirà mai, naturalmente sono sempre parole al vento, baci tra omosessuali, comunque effusioni nei parchi. Io non capisco il senso di queste uscite, spiegamelo tu, Alessandro. Guarda, qui ce ne sono due: o sono tutta della povera gente e allora ce la mettiamo a ridere, secondo me state facendo benissimo a pigliarli per i fondelli con i vostri bravissimi ospiti, oppure c'è chiaramente un disegno dei cattolici e dei fascisti di tenere l'Italia al riparo dall'onda della civiltà liberale e democratica, che per fortuna è quella caratteristica di tutto il mondo libero dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, io insisto qui, o vogliamo prenderla a ridere, pigliamola a ridere, oppure a Ventimiglia ci sarà un problema per Sarkozy, perché ci sarà da un lato la coda dei rifugiati e dei profughi del Nord Africa e poi ci sarà una lunghissima coda di tutti gli omosessuali italiani, di tutti coloro che vogliono morire come quando gli pare a loro e non come quando dice la Chiesa Cattolica, di tutti coloro che vogliono fare la fecondazione assistita e la Chiesa Cattolica glielo impedisce. Ci sarà, come dire, una specie di fila a Ventimiglia e Maroni avrà ben altri problemi, perché poi poi c'è il rischio che i francesi ci accolgano a braccia aperte, perché loro per fortuna la rivoluzione francese l'hanno fatta e hanno impiccato papi e re. Ecco, ma non capisco, mica tu impiccheresti Buttiglione. No, poveretto, non è così importante, perché anzi io addirittura gli pago volentieri la pensione, questa è la differenza fra me e lui. Lui non la paga a me, io la pago a lui. Senti, ma una cosa, ma però non sarebbe nemmeno da multare o cose di questo tipo, o da prendere provvedimenti nei suoi confronti, no? Cioè, no, e questa è la differenza. Nel mondo liberale nessuno si permette di dire che c'è una categoria di persone meno uguale delle altre, che va multata, o a cui va tolta la pensione, a cui non va consentito di sposarsi. Non ha detto che bisogna togliere la pensione, ha detto che quasi, le pensioni. Ha detto che i gay vivono a scrocco degli altri sulla pensione, che è una cosa folle, perché non capisco cosa significa. Ma il contrario, non avendo figli, noi il contrario, non si può nemmeno dire il contrario, perché. Certo. Ma scusa, poiché io non avrò figli, quello che io verso, anziché andare ai miei figli che non avrò, l'avranno i figli degli eterosessuali, noi sono ben contento, però per Vinci, rispetto. Cioè, se uno si vuole mettere a discutere, addirittura tu dici sono gli omosessuali, cioè quelli che non hanno figli, che contribuiscono di più. Ma scusa, dice la logica, con i miei soldi che non vanno ai miei figli che non avrò, è chiaro che vanno ai figli degli eterosessuali, quindi di Bottiglione. Che lotta! Come lotta, ma io non ho problemi. Il filosofo del Papa mi dice che noi non abbiamo diritto ad averla. Lei è fidanzato, Cecchipone? In questo momento no. No, ma con i suoi fidanzati, quando ce li ha, o con qualcun altro, fa effusione in pubblico? Si bacia in pubblico? Assolutamente sì, sempre. E che, cioè, va che in reazioni va in giro, mano nella mano, ovvio, cose di questo perché tipo. Non dovrei, scusate, mica c'è niente da per me può fare quello che vuole. Ma sente intorno, per esempio, un bacio, no? Però diciamo la verità, quando tu vedi un bacio tra due uomini, quando vedi un bacio tra due donne, per me è assolutamente normale, lo vedo raramente, però quando l'ho visto, mi volto. Beh, certo. Mi soffermo per un attimo. Ma come quando vedi un uomo e una donna avvinghiati davanti a un cinema. C'è mai stata qualche reazione forte nei tuoi confronti? Guarda, c'è stato soltanto una volta in un paesino del sud, perché io col mio compagno dell'epoca, erano le 2-3 di notte su una panchina, ci siamo scambiati effusioni molto intense perché non arrivava mai il taxi. Che molto intense, che vuol dire? Il paesino si è diviso il giorno dopo tra chi diceva che avevamo esagerato e chi diceva che avevamo fatto bene. La cosa stupenda è che poi la cosa è finita, perché siamo persone per bene, nonostante la nostra classe politica, la nostra classe ecclesiastica, e ci hanno invitato a cena per pacificare, dicendo viva l'amore, viva l'amore. Cioè il concetto è due persone che seminano, due persone che si baciano, chi preferite? Vabbè, non c'è dubbio. C'è dubbio. Secondo me Tosi preferisce la gente che si mena, quelli sono manetti. Tosi è un gobbo. No, come si chiama? Tosi, Tosi ha addirittura promosso il festival del cinema gay, non so dove. Tosi è vero. Io mi sono sbagliato. Insomma, Verona, quello gobbo e Treviso. Gobbo e Treviso. No, ma c'è chi vuole, ha ragione su tutta l'analisi. Non sbaglio. Secondo me sul Papa non può pretendere che il Papa dica cose. Ma io non pretendo. Pretendo soltanto che il mio sia un paese laico, e quello che il Papa e i suoi accoliti dicano non va. Che deve fare? Sentiamo Alessandro da Roma. Alessandro, un attimo solo. Alessandro da Roma. Pronto, buonasera a tutti. Dica. No, io volevo intervenire sempre circa la solita questione di Buttiglione. Allora? Premesso che insomma, io sono un detrattore di tutta i filoclericali, clericali, sono d'accordissimo con Cecchipone, apprezzo molto il suo coraggio e la sua energia con la quale argomenta le sue tesi. Però tecnicamente, dal punto di vista prettamente matematico, di nuovo, il discorso purtroppo non è sbagliato, nel senso che purtroppo il sistema pensionistico italiano, un pochino in sofferenza, si basa sui soldi che vengono versati attualmente, non su quelli che sono stati versati la generazione precedente. No, mi scusi, però, Alessandro. E quindi chi non procrea ovviamente beneficia dei versamenti che stanno facendo le generazioni successive, alle quali lui non ha contribuito. Ma non è così, non è così, Alessandro, non è così. Piero da Frosinone, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Allora, premesso che sono abbastanza vicino alle posizioni del PDL, no? E nella maggior parte delle sue valutazioni sono pienamente d'accordo con lei, Cruciani, no? Vabbè, allora? No, sì, la sento. Secondo me il discorso praticamente è più ampio. Io volevo fare un riferimento all'intervento di Buttiglione di ieri sera, che secondo me è stato completamente travisato. Cioè, non sono vicino, per esempio, alle posizioni di Buttiglione. Sì, ma però... non è stato travisato. Noi stiamo parlando di gay e lui se ne è uscito con una frase del genere. Se vuole la faccio risentire. Il discorso però è più ampio. No, il discorso è più ampio. Ma non è più ampio. Stavamo parlando di una cosa precisa. Non è più ampio. Piero, però devo chiudere qui perché non ho più tempo. Ultimi 30 secondi con Tremonti su questa questione della previdenziale qui. Lei deve dare una risposta definitiva su questa questione. Ministro. Se posso la do con la mia voce, visto che sto anche in commissione di lavoro. Allora, nel sistema a ripartizione, quando chi lavora paga la pensione di chi è in pensione, questo è un sistema che è esistito fino adesso. Il vero problema è stato quello generazionale, non il problema dell'orientamento sessuale o di chi ha figli. Ci mancherebbe altro. Nel senso che le nuove generazioni mediamente pagano la pensione dei loro genitori e poi quando andranno loro in pensione prenderanno invece una parte di quello che hanno versato, perché c'è il passaggio a capitalizzazione. Questo non ha nulla a che vedere né con chi ha figli o chi non li ha, né con l'orientamento sessuale di ciascuno. E dunque Tremonti cosa direbbe? Non c'entra niente. D'altra parte bisogna fare attenzione al proprio futuro. Ma dai Cruciani, è tardi. Grazie Alessandro Cecchipone, grazie di essere stato con noi. A presto, ci sentiamo domani 18:30. Grazie a Simone Baldelli, grazie a voi, grazie. Salute. A domani. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare. Radio 24, la passione si sente.